Oh, senti, ho dimenticato di dirti una cosa. Oh! La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Siamo quasi a destinazione, signore. Quell'uomo è un disertore ed è portatore del virus e dobbiamo metterlo in quarantena a Travis. Coraggio, andiamo. Big Eye, formazione Viper in volo, ci vedete? Sono in formazione d'attacco, quelli ci vogliono soltanto abbattere, signore. Non vorrà abbattere un elicottero nel cielo della California in pieno giorno. Con tutto il rispetto, colonnello Daniels, se lei non ci segue la base aerea di Travis, io la faccio abbattere, ci può scommettere. Generale, con tutto il rispetto, vada a fare in culo. Detto con il massimo rispetto per tutte queste palandrane del cazzo. Pump up the bass. Pump up the beat. Palandrane del cazzo. Pump up the bass. Pump up the heat. Io sono Giorgia. Sono una madre. Sono una donna. Sono italiana. Io sono Giorgia. Buonasera. Ci può far entrare cortesemente, No, no, quando viaggi col pullman oppure vai in qualche posto, lavati sempre le mani, nonna, perché si caccia di cenice, stanno vestendo tutto il mondo, nonna. Lavati, mi raccomando, la pulizia, e quando vedi un cenese scappa, ngulagisce e dove sta. The Loudness War. Gulagisce dove sta. Perché si caccia di cenice, stanno vestendo tutto il mondo, nonno. Cosciano, Cosciano, Cosciani, Cosciano, merda, come cazzo ti chiami? Sei un figlio di puttana bastardo. Parenzo e quell'altro frocio di merda, come cazzo si chiama lì? Spurgottardo! Che si è permesso di tirare addosso in testa a Polegato e tirami su. Sei un pezzo di merda che tu inviti le persone in trasmissione e poi li tratti come delle merde. Ti giuro su Dio, ti giuro su Dio che il giorno in cui io potrò venire una trasmissione del genere e fate una cosa del genere, io vado in galera, ma voi andate sottoterra. Pezzo di merda bastardo, sei un figlio di puttano. Tu, quel ciccione di merda e quel bastardo maledetto di Parenzo, fate schifo, merde, non attraversatevi mai la strada, perché ti giuro su Dio che se sto andando per strada e vedo attraversarmi la strada, la mia macchina non frena, accelera, bastardo, tu merda. Chi era quel cretino di poc'anzi? Tu merda. Tu sarai con me in paradiso oggi, gloria a Dio. Victims of the Loudness War. Sono pronte per essere munte. Sono pronte per essere munte. Stanno qua. Complimenti. Il giocatore è in ospedale, è alla frattura e lei non ha fatto nulla. Carucci, non siamo di Serie A, Carucci! Vai a fare il culo del tuo fratello! Basta di fare! Efficiente! Comprare! Le devo dire qua! Non siamo di Serie A, Carucci! Vai a fare il culo del tuo fratello! Questo era un omaggio al signor Luciano Gaucci, è numero uno. Un abbraccio a Lucianone nostro. Mi ricordo le interviste col signor Lucci a Santo Domingo, ti ricordi? Una cosa epica. Molto bello. Dentro il mare, ti ricordi? Dentro il mare. Un pezzo di televisione. Lo vogliamo ricordare così. Sì, sì. Lo vogliamo ricordare così. Vanno, signor Gaucci. Fallo sentire. Signor Gaucci, quando prese d'assalto Matarrese, tu non lo sai questa cosa qui, una roba di calcio, gliene disse di tutti i colori, come abbiamo sentito. Siamo qui, caro Parenzo! Eccoci. Siamo qui! Questo è il nostro paese! Non è quello ospitato dal signor Tour Toscani nel weekend da Oliviero Toscani, che ha ospitato le sardine insieme al signor Benetton in quel del Veneto, non so dove, in che località, dove c'è fabbrica, dove lui lavora lì. Questo è il paese reale, questa trasmissione è il paese reale, non quello che ha ospitato il signor Toscani con quella foto. Il paese reale sono quelle ricercatrici, una delle quali pagata 1500 euro al mese dello Spallanzani di Roma, che ha isolato il virus del coronavirus. Tu che sei quello che accusa i falsari. Queste cinque donne che hanno lavorato 48 ore di seguito per isolare il virus, tu, e lo hanno fatto. Ti prego, Longoni, spiegaglielo tu, che è una puttanata. Dopodiché, spiegaglielo tu che sei uno che fa il debunker, diciamo, uno che spiega. Ti prego, spiega a Parenzo, che sta per partire con questa filippica donne che hanno isolato il virus, sono che quelle è una dello... puttanata. Sono le ricercatrici. Prego, Longoni, prego. È tutto vero, Giuseppe, perché? Ma fanculo, dai, una puttanata. Lo hanno isolato altre 30.000 persone, ci hanno fatto una testa così nel weekend. Ma noi lo facciamo gratis, attenzione. Gli altri lo fanno a pagamento. Noi l'abbiamo fatto gratis. Quelle sono diventate un simbolo assieme a tutto il team. Dopodiché, io sono appena tornato dal Veneto. E sono sconcertato, amico caro. Che è successo? Sono sconcertato. Che è successo? Dimmi che è successo. I governatori leghisti delle più importanti regioni del nord Italia hanno deciso che gli alunni che tornano dalla Cina non devono rientrare a scuola. Quarantena. Per chi torna dalla controlli normali. Mica mettono nei lager le persone. Quarantena per i cinesi. Quelli che tornano, gli studenti che tornano dalla Cina. Quarantena per i cinesi. Ora, il governo italiano ha bloccato i voli da e per Pechino. Ma quelli che arrivano vengono controllati. Questo vuol dire la cosa. Vengono in quarantena. Controllati. Ma che c'entra la quarantena? Ma perché tu stai dicendo cinesi? Che sono nei nazisti, ma che vogliono mettere nei lager i cinesi? Non l'ho mai detto. Ho detto che si fa semplicemente. E se uno è italiano, che ne so io, che uno che ha viaggiato oggi in aereo con me da Venezia a Roma non sia stato in Cina qualche settimana fa, che ne so io, solo che era bianco, era pallido, era italiano e non era con gli occhi a mandorla, non era con l'involtino primavera, non era un fottuto cinese, perché voi siete così, voi ma siccome voi vedete chi? Un cinese giallo, dite giallo one uguale coronavirus. Ma a me non sembra niente siete di strano così. Gli alunni che tornano dalla perché Cina, perché devi mettere in quarantena gli alunni cinesi? Ma no, ma quelli che tornano dalla Cina vengono sotto controllo per evitare contagi o cose già di questo i controlli, ci allora sono le disposizioni fatte dal Ministero della Salute. E allora sarà stata una cosa di propaganda, No, te lo chiedo a te, che non sei lo so, perché non lo so. Si vogliono contraddistinguere dagli altri? Perché? Perché i governatori della Lega hanno deciso di fare? Lo chiedo a te, nella tua per buona politica, fede. Per politica, per propaganda, sicuramente. Ma per me si può chiudere qui. Per me puoi chiudere la trasmissione. Hai risposto. No, mi è arrivato un libro, ricette proibite. Oggi stiamo passando da un argomento all'altro in 3 secondi, cosa che facciamo sempre, ma stavolta in maniera più repentina. Ricette proibite: rane, asini, rondinotti, gatti e tartarughe nella tradizione alimentare. A proposito di cinesi, spicca la ricetta per il gatto in umido. Anche per questa ricetta, prima di cucinarlo al gatto deve essere fatto il trattamento della ricetta precedente, compresa la marinatura. C'era una ricetta precedente: togliere i pezzi di gatto dalla concia e farli rosolare in un tegame con olio, aglio e rosmarino. Aggiungere salsa di pomodoro e acqua calda, salare, pepare e continuare la cottura lentamente a tegame coperto per circa 2 ore. A cottura ultimata si possono aggiungere olive nere denocciolate. Con il sugo di cottura possono essere condite, tagliatelle o pappardelle. Ma in questo caso si tolgono i pezzi di carne dal sugo e vi si fanno cuocere le verdure della marinata per circa mezz'ora e poi si passa tutto al setaccio. Era questo il modo di sfamare intere famiglie in tempi passati, quando la fame era tanta e i mezzi veramente pochi. Il gatto in umido. È vietato. Sarà pure vietato, però se la gente c'ha fame, qual è il problema? Iva Zanicchi, se vedo un cinese me la do a gambe, vai. No, veramente. È così, appunto. Ma non puoi diffondere. Chi salveresti? No, ma che questo momento? È una domanda. Intanto speriamo di salvarci adesso da questo coronavirus, che io non lo so, ma un po' di paranoia ce l'abbiamo un po'. No, un po' di preoccupazione. No. Guarda, ti dirò che ieri arrivando in treno, sono arrivata alla stazione, ho sentito delle urla tremende. Dico, oddio, che si è fatto male qualcuno. Allora, una scena incredibile. C'era una signora cinese che è scesa dal treno e tutti gli inservienti dicevano si fermi, ma e la tenevano lontano con le mani, stia lì ferma, e questa che urlava, poveraccia, che magari non c'entrava nulla, ma adesso c'è un po' la psicosi. Io quando vedo un cinese sorrido, ma me la do a gambe. La Zanicchi se la dà a gambe davanti a un cinese. amico mio. Ma torniamo alla foto di Toscani. Ora, interessa pochi, diciamo la verità, è una cosa molto di giornalisti, di cose. Toscani che si fa fotografare insieme alle sardine, che invita le sardine. Io voglio capire che cazzo si sono detti con le sardine, che non hanno un cazzo da dire. È un uomo cosa si saranno detti con Santuzzo? Toscani e Santori, Santuzzo. Non fare Santuzzo, San Minchia, non lo so, è uguale. Santori, è uguale, non fare come faceva Emilio Porro, Fede. Senti Porro su questo, Porro. Su questo incontro. Toc, toc, toc. Su questo incontro. Toc, toc. Su questo incontro al vertice. Mamma mia. Ieri le sardine si sono fatte una bella foto, sapete da chi? Dai Benetton. E allora lì c'è un po' di imbarazzo. E come la leghi questa foto delle sardine con quel cazzone ubriacone di Oliviero Toscani e soprattutto i Benetton, i concessionari delle autostrade d'Italia? Secondo la Santanchè ci sono i poteri forti dietro le sardine. Ma cosa dice? Ma guarda, devo dirti la verità, a me ispirano il nulla, per cui dubito che, le, che i poteri forti possano influenzare il nulla. I no, poteri forti si appoggiano, portare... i poteri forti si appoggiano sulla gente che ha delle cose da dire. No, cioè non si appoggiano sono... sul nulla, secondo me. Comunque, creano vabbè. Attenzione, perché sono riusciti a portare in piazza più di 50-70.000 persone piazza, e hanno battuto Salvini. Io vado ai matti, la piazza, la piazza. Creano attenzione a chi per questo. Chi te l'ha detto che hanno battuto Salvini? Questa è una vostra hanno idea. La gente al voto. Ma non è detto, non lo dice nessuno, dici solo te. Hanno dai. Portato la gente. Non lo dicono nemmeno i tuoi famosi il istituti, dai. Hanno rivitalizzato. Mamma mia, che banalità, che cose dette, ridette, risentite 40 volte. Non so, ma la banalità a volte nasconde la questo verità. È vero, questo le è vero. Cose normali, questo cose è vero, tranquille. Sulla foto di, delle sardine, di, dei quattro leader che c'erano nella fotografia, peraltro posata, perché mi sembrava che ci fosse anche la regia del fotografo Toscani, ha dimostrato vabbè, che quella favola che di faceva cosa? Nascere queste sardine come un movimento spontaneo, popolare e che si metteva contro i poteri forti, vabbè, era proprio andata a canossa, cioè a, a casa di chi invece rappresenta della nostra nazione sicuramente. I poteri forti dietro le sardine. Vabbè, ragazzi, vabbè, rimanete qui perché dopo vi faccio ascoltare delle voci fantastiche che arrivano da una città a caso del sud Italia. E in quale città? La solita rubrica ritorna fra pochissimo. È così difficile definirsi antifascisti? Io non sono antifascista, per esempio. Io non sono antifascista. Cerchi un gestionale in cloud? Scarica l'app da fluentis.com e prova gratis per 30 giorni. Vi presenta Zanzara. Zanzarosi, giornata difficile, chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Riunione importantissima per valutazione e rendimento degli ultimi mesi. Nel bel mezzo della riunione con il manager bussano alla porta e io sento solo Porro che grida toc toc. Maledetti. Toc toc. Allora ragazzi, in quale città? In quale città, anche se ormai sembra quasi pleonastico. Pleonastico, ho detto, oddio, che parola ho usato? Pleonastico, bello, perché, bello. Perché ho usato questa parola? È un dramma. Meglio, impegnati un dramma, ad usare qualche no, parola un po' più elaborata, è un dramma, anziché ragazzi, i soliti parolacce. Non bisogna alzare, bisogna andare verso il basso, non verso l'alto. Pleonastico, beh, no. Ritiro tutto. Vi siete abituati sicuramente a questa canzoncina, vi siete abituati a questa musica, vi siete abituati alla città, vi siete abituati alla regione, già intuite, già sapete, così va meglio. Invece di dire pleonastico, quindi dici delle cose molto più comprensibili, molto più dirette. Non bisogna usare ma queste cose qua da gente che fa finta giù di essere acculturata. No, ma che acculturata? No, guarda no, che la gente no ha voglia di parlare bene, no, di parlare la gente bene ha voglia di sentire cose vere, non cose costruite. Comunque aspetta, ma che costruite? Il linguaggio, la allora, proprietà di in linguaggio. In quale città un signore scarcerato festeggia con i botti e blocca una strada? Questo è brutto. Dove? In quale città? Amico mio, in quale città? Uno viene scarcerato, un signore, magari è capitato anche figlio a Trento, del che boss sappiamo, Belforte, fa dei fuochi d'artificio, blocca una strada. Franco, buonasera. Su Facebook, buonasera tutto a tutti. Sì. In diretta da pianura. per festeggiare la mia libertà. È arrivato Baffone. Chi è Baffone? Vai, vai, allo fuoco, no? Dallo fuoco. Mica mi metto vicino a batteria questa macchina. Sono in aria. C'è Sim, vai, va. Allo fuoco, no? È venuto Baffone, vai, va. Vai! Agata passava, che non faneva, te, te! A faccia chi mi va male! A faccia tutto il lodo! È venuto Baffone, oi! Ecco te, che non faneva! Viva la libertà! Viva la libertà! È contento, là. E anche questo è fatto! Beh. Buona serata a tutti quelli che ci avete seguito. Ti ripeto, buonasera, buonasera, io chiudo. Grazie per la vostra collaborazione. Ma chi è posso dire una cosa? Questo è un mondo ormai capovolto. Sì, cioè, qui c'è il figlio di uno, adesso non so perché reato fosse dentro, certo, non per scambio di figurine, possiamo dire non per sì, un ex criminale, adesso non so quale reato oggettivamente, però comunque un ex galeotto, diciamo, almeno galeotto, uno che è stato in galera. È uscito, la prima cosa che fai è andare su Facebook a sparare fuochi d'artificio in mezzo alla strada, cosa che oggettivamente non si può fare, però capisco che mettere, cioè, in quel contesto lì, per una persona così, l'idea che non si possano sparare dei botti in mezzo a una strada, sì, in quel rione che lui immagina sia suo, di sua proprietà, sua, sia cosa una cosa sua, bizzarra, sì. No? Dire, beh, però forse non dovresti sparare è dei botti strada, in mezzo alla strada. Lì, la sua gioia, la voleva condividere. È evidente con che tutto... per persone che pensano che sparare con le pistole magari sia una cosa normale, figuriamoci sparare i botti in mezzo a una strada. Botti in mezzo a una strada dovrebbero essere autorizzati direttamente, dai, su. Comunque è divertente, per carità. Però... in quale città? E in quale città? E dai, su. Dai, ragazzi, questo bisogna dirlo. Spatalino fresco fresco. Spatalino fresco fresco. Ce l'avete, spatalino fresco fresco? Pare che se la prenda con una donna magrebina che urla a Salvini di andare, non lo so, cioè prende delle cose come facciamo noi e poi fa le sue invettive, fa le sue invettive, fa le sue interpretazioni, fa le sue invettive, fatti, invettive. No? Quel tipo di donna non è per me. Questa signora o signorina, non so come chiamarla, l'altro giorno ha bestemmiato letteralmente in uno dei tanti salotti televisivi, ha detto che gli ignoranti non dovrebbero andare a votare, sue parole, ma non si vergogna, signora Alba Parietti. Ah, se l'è presa con la Parietti, sì. Se l'è presa con la Parietti che ha detto quella cosa lì. Ancora, ancora la Parietti, ancora la Parietti. Ma come può permettersi una donna di offendere gli italiani? E i compagnucci hanno una mentalità che ve la raccomando. Sono i migliori, sono i più puliti, sono i perfetti, i puritani. Balle, balle, balle. Che vergogna! I wanna see a pain. Io vorrei vedere come mai lei va dappertutto. Ecco, signora Parietti, dai, mi elenchi i meriti in base ai quali lei va in televisione. Beh. La vedete dappertutto. E allora? Cos'ha di particolare, al di là delle labbra, sto labbro tutto carnoso, eccetera. Cosa? Chi è Alba Parietti? Chi è Alba Parietti? Un mostro di ignoranza, perché uno che si esprime così offende dei socratici. Gli italiani. E poi il gran finale, il gran finale spataliniano, senti. Si chiama Alba Parietti. Questo lo sappiamo, no? La vedete dappertutto. Dunque, quella già detto. Con le labbra rifatte. Sì, sì, vabbè, dai. Allora... bella donna, tutto sommato. Io non ci andrei neanche gratis. Ma viceversa, vedrai, stai tranquillo. Stai pur tranquillo, non c'è neanche il rischio, non c'è il rischio. Non c'è la domanda, non c'è la questione, non so come dire, non si pone proprio. Pierpaolo da Bari, vai Pierpaolo, vai. Avanti. Ciao. Avanti tutta, dimmi. Niente, volevo intervenire sulla questione del coronavirus. Sì, dimmi, che è successo di nuovo? Non ne posso più di questo coronavirus. Posso dirti una cosa? Non ne posso più di questo coronavirus del cazzo. Di parla, non c'è nulla da dire su questo coronavirus. Niente, tranne il fatto che la russa, tranne il fatto che la russa oggi ha detto di Fratelli d'Italia. Sì, ha detto, me lo vuoi dire per favore la frase esatta che ha pubblicato? Eccola qua. Non stringete la mano a nessuno, il contagio è letale. Usate il saluto romano, antivirus e antimicrobi. Ora ragazzi, quello ha cancellato dicendo che è stato un collaboratore. Ti credo. Vabbè, ma non si può nemmeno scherzare su questa cosa. Politico, dai. Cioè, è una tragedia. Muoiono centinaia di persone. Ma in giro per il mondo. Non penserai mica che ci sono governi, una soluzione che lui vuole prendere. No, ma ti dà l'idea della superficialità della classe politica. Ci sono governi impegnati nel debellare il virus e lui fa la battutina. Il suo collaboratore fa un saluto romano. Piaceva fare da ragazzino, forse anche adesso, sul saluto romano, che peraltro dovrebbe essere considerato un reato, perché se tu in Germania vai per strada e fai il saluto in Italia, ma se tu in Germania fai il saluto nazista, arriva la polizia, ti prendono e ti bevono. Allora vediamo se un deputato al Parlamento tedesco avesse fatto la stessa battuta, che cosa sarebbe accaduto. La Germania è più seria di noi. Pierpaolo, dimmi. Io volevo dire che secondo me la Cina e in generale tutti i cinesi se lo meritano il coronavirus. E perché se lo meritano? Scusa, sono una popolazione sporca che vive nella sporcizia. Cioè tu dici sono talmente fuori da ogni regola, sono talmente assolutamente trattano gli animali di merda, vivono nella merda, totale assenza della igiene, sfruttano i lavoratori, una serie di cose che alla fine cani, topi, serpenti, che alla fine se lo meritano, si meritano di crepare. L'anno scorso questo più o meno è quello che dice la signora Martani, due casi di peste nera pure, cioè perché hanno mangiato una marmotta. Cioè tu dici che alla fine la Cina è il male del mondo. Il male, alla fine, è il male del mondo. Ma non dico che dovremmo. Paolo da Padova, ho capito. Paolo da Padova, non... dai. Paolo da Padova, dimmi. Paolo. Paolone? Roberto da Cremona, vai. Questo si è ammutolito all'improvviso. Roberto. Sì, pronto. Ho visto ieri, proprio giusto ieri, un video su YouTube di tre mercati, dove trattavano cani e robe del genere. Non ci credevo. Ma dove? Visto tutto dove? Su YouTube. Ma dove? In che si paese? Mercati indonesiani. Ma sì, ma ragazzi, ma non è che tutto quello che c'è su YouTube sia la verità assoluta? Ho visto un filmato. Allora che vuoi dire? Cosa vuoi dire, Roberto? Ma no, se qualcuno vuol vedere l'igiene che hanno loro per i contagi, così c'erano pipistrelli morti, vivi e anche giacotti. Tu dici i virus non vengono per caso, diciamo, non nascono per caso. Ma è vero che sono nati tutti in Cina gli ultimi anni. E cosa vogliamo fare? Cancellare la Cina? Cancellare l'Indonesia? Che vogliamo fare? Mi meraviglio perché è tanto casino di questo virus. Cioè, il problema è, sicuramente questo virus sarà già stato... Fermi tutti, già te stai allargando, fermo. Il segnale orario vi è offerto da... È ora di riscoprire il fuoco. Progetto Fuoco, 19-22 febbraio, Verona Fiere. A una classe A puoi chiedere tutto, anche di farti ballare. Runaway, turn away, runaway, turn away. Ehi, ehi, ehi, Mercedes, metti la canzone originale però. Va bene. Chiedi di più. Classe A180D con MBUX di serie. Fino al 29 febbraio con Leasing My Drive Pass hai 4.000 euro di eco incentivo Mercedes-Benz e anticipo zero. Se permuti la tua auto anche Euro 5. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri anche classe A plug-in hybrid su mercedesbenz.it. Tiscali augura a tutti una buona connessione. A chi twitta, a chi social, a chi fibra, a chi giga, a chi carica, a chi scarica, a chi cerca, a chi YouTube, a chi Spotify, a chi ce la fa, a chi vive online, a chi si sente, on life. Con Tiscali hai la fibra fino a 1 giga a soli 26,95 euro al mese, senza vincoli, con modem super wifi e attivazione veloce gratis. Offerta soggetta a limiti geografici e tecnologici. Vai su tiscali.it, chiama il 130 o visita i negozi Tiscali. Tiscali, on life. Acquisto o noleggio? Perché scegliere quando puoi averli tutti e due? Con Noleggio Chiaro puoi scegliere oggi l'auto di Fiat Chrysler Automobiles che desideri ed acquistarla dopo 3 anni a un prezzo garantito. Ad esempio, Alfa Romeo Stelvio è tuo da 399 euro al mese con RCA, furto incendio, copertura danni e manutenzione inclusi nel canone. Offerta valida fino al 29 febbraio e soggetta ad approvazione Lisis, durata del noleggio 36 mesi, anticipo 11.400 euro. Info su noleggiochiarofca.it. Zanzara. Le nostre preghiere hanno fatto arrivare Fontana e Salvini. Questa è la grazia, le preghiere. Yeah. Siamo passati da quelli che ben pensano a quelli che non pensano. Ragazzi, tiriamo fuori i rosari, forza! A Uma Uma Thurman, la donna forte che un po' ti turba. Tuo figlio in rete da quando è in culla come Truman. Vedo un obeso anche lui YouTube. E più si abbuffa, più gente esulta. L'era della musica sembra no quel serena. Soffrire! Cazzo di gara infinita, chi se la mena. L'ignoranza sventolata come bandiera. Il sonno della ragione vuota lega. Pronto? Buonasera. Salve Salvini, se lo contesti già sono usciti. Manda vaccino ai vaccini, terapeutisti, privi di senso, siccome i testi nell'indi. Buongiorno. Bimbi, sai che su streaming non trovo Lucio Battisti. Ci può far entrare cortesemente, eh? Sì. Noi facciamo come a Cincinnati, su via, siamo adulti e non vaccinati. Il senso nascosto così bene che non c'è. Non avrai altro brand al di fuori di lui. Ci hanno detto che da lei parte una parte dello spaccio della droga qua in quartiere. No. Ce l'hanno detto dei cittadini. Adesso cosa facciamo? Pensavo di trovarti qui. Sì. Sono sul fondo e scavo, aspettando una mano, siamo morti. Amico mio, ti senti presa all'amo? Sì. Mi sento anch'io così. Amico mio, siamo quelli che sperano e sbagliano, quelli che non pensano. Io sono leghista, leghista dalla prima ora. Buonasera, buonasera Giuseppe, mi sembrava di essere sul set di un film porno. Fatele più spesso questi collegamenti, eh. Quali collegamenti? Con la Morellata. Con la Morellata, con chi? Con mio fratello, non capito. Too big, too small, sai stas matter after all. Too gross, too close. Ma scusatemi, cioè l'Italia chiude lo spazio aereo con la Cina, la Russia chiude le frontiere, l'IKEA chiude i negozi, però se un italiano chiude un bar è un razzista. Ma che cazzo state dicendo? Esiste solo una religione, il parenzismo. Pleonastico, di pleonasmo oppure che costituisce pleonasmo, atti e comportamenti che si ritengono inutili, superflui, non necessari. Siete malati di certo. Di precisione, siete malati, certo. Cioè, questa vostra precisione per il vostro citare sempre dei numeri, delle cose, vi travolgerà alla fine, vi travolgerà. Ma numeri, fatevi le scivolare. Cifre, ma, i fatti, le cose, ma cosa scivolare. Servono i fatti? Dai! Ma dai! La televisione, i numeri, le statistiche. Non fa ascolto naturalmente, ma la fiction, dai, il racconto, l'emozione, esatto, bravo. La precisione, loro di precisini che ti dicono no, che cos'è l'elite, i medici che ti spiegano il coronavirus, esatto, no. Ma dai, noiosissimo. Hai ragione. Naturalmente io ho detto al servizio pubblico, naturalmente inascoltato, sì. Ovviamente. Beh, certo, mi pare chiaro. Sì. Di fare una grande cosa in occasione, sì, di Sanremo, naturalmente questa cosa? È la mia idea che avevo proposto. Naturalmente mi hanno cacciato, naturalmente, per questa idea grandiosa. Ho detto della serata inaugurale di Sanremo, naturalmente. Sì, sì, sì. A un certo punto compare improvvisamente dal nulla un cinese. Bellissimo! Corre dentro il teatro, naturalmente, sì, stranutendo su tutti, parlando in cinese, naturalmente, sì, e creando, generando il panico. Debole, però, debole. Ora, debole, naturalmente, cioè, preso da Wuhan, direttamente portato da Wuhan. Cioè, ma natura, vero, un cinese vero, non la fiction di Rai 1, dai! C'è uno portato da Wuhan, direttamente. Un vero cinese, naturalmente. Malato, che, malato, ovviamente. La verità, la TV della verità. Naturalmente, se non è malato, cosa? Se non è malato, è fiction. Naturalmente, non c'è emozione. Cioè. L'idea tua, bene, scusa, a quel punto il tua dramma, idea? Naturalmente. Okay. Silenzio, sì, naturalmente, sì, quando c'è budget, hanno detto cosa c'è il budget. Naturalmente, lo porto in aereo, bellissimo. Arriva e le telecamere seguono, naturalmente, da questo paesino disgraziato della provincia di Wuhan. Naturalmente, una famiglia contadina molto povera, naturalmente, disposta a tutto pur di guadagnare 2 lire e di scappare da quell'inferno. Naturalmente, avevo proposto con i soldi del servizio pubblico, naturalmente, di prendere. Volo, caricarlo, sì, su un aereo di linea, naturalmente, tutto, cioè, portarlo con le telecamere fino dentro al teatro, salire sul palco dell'Ariston e portare la verità, la morte, naturalmente, in diretta televisiva. Ovviamente questa più... è la televisione, no! Più persone contagiava, meglio era. Ma sua funziona, fa ascolto, crea il dramma nel dramma, i soccorsi che arrivano, in diretta televisiva nazionale, tutto il paese che dice: ma com'è possibile, un cinese che inquina, malato di sicuro, come... E allora, naturalmente, da quello si creano tutti gli spin-off del programma, naturalmente. L'ospedale, l'ospedale, bravissimo, vedo, vedo che entri nella mentalità della televisione, della, sì, serialità, della, sì, serialità, sì, della TV. Capito, però. Se produci una puntata sola, i costi sono molto alti. Infatti, se invece fai 200 puntate, naturalmente, seguendo tutta l'agonia, naturalmente abbatti i costi, naturalmente. Ho capito. Al budget della televisione. Ma che succede con sto cinese dentro il teatro? Poi muore, che dopo muore, naturalmente, il cinese, dopo 200 giorni, 200 puntate, naturalmente, oh, viene preso, arrestato immediatamente, portato nel teatro lì a Sanremo. Che succede? Beh, sì, il dramma del dramma, naturalmente, spin-off. Da una parte si seguirà la vita di questo cinese, e poi la gente che scappa, naturalmente, immagino, bellissimo, sì, il panico generale, dai, che funziona. Tutti che fanno riferimenti ai film Virus Letale, quello è film, naturalmente. Noi dobbiamo portare la realtà della televisione. Proposta bocciata, mi sembra. Ma no, mi hanno cacciato via in malo modo, dai, ma che modo è? Ma non sanno fare la televisione, dai, la realtà. Volevi portare un cinese malato a Sanremo, certo, a spese dello Stato. Poverissimo, naturalmente, un cinese poverissimo. Non capisco che alla Rai si sono fatti qualche problema. Ma hanno cominciato a dire la carta dei servizi, ma quale, ma Orson Welles, se ci fosse stata la carta dei servizi, non avrei fatto nulla, dai! La carta dei servizi, dicono, non è etico, naturalmente, la carta dei servizi. Ma la TV non, dai, è etica, mi sembra, no? Dai, grazie. Allora, David da Pescara, David, tra l'altro, David da Pescara, vai, dimmi. Peppino, ci sei? Dimmi. No, senti, penso che tu... Comunque non è una, effettivamente non è una cattiva idea portare un cinese, come voleva, c'è un cinese malato a Sanremo sul palco. Ti dicevo, premesso che siete due fottuti rotti in culo, te e il mio nome. Buonasera, benvenuto, grazie per aver chiamato. Buonasera, grazie per aver chiamato. Chi è grazie per aver chiamato? Mi fate ammazzare da ridere, come dice quello. Vabbè, dai, non ce ne frega un cazzo, dimmi, dai, anche se ti facciamo piangere uguale. Dimmi. Volevo ricordare al mio omonimo, che è rimasto un 17enne, presumibilmente italiano, presumibilmente senza chiamandola, in quarantena a Wuhan. Ma chi se ne frega? Stava a Wuhan, cazzi suoi. Cioè, se stava a Wuhan, mi dispiace per lui, ma sono cazzi suoi. Dai, me ne frega, uno rimasto da solo a Wuhan. Ma per carità, però è il mio omonimo che diceva che mettere in quarantena per quelli che tornano dalla Cina, gli studenti. Sì, si è scandalizzato Parenzo per questo provvedimento dei governatori. Parenzo si chiama come me, si vede che è coglione come me. Massimo da Roma, anzi no, Filippo da Como, vai. Dimmi. Pronto? Ciao Cruz, sono Filippo. Senti, ti volevo chiedere, lo so che sono un po' fuori argomento perché... Ma non ci sono argomenti qua, sono non c'è. Non c'è. Mi ascolta, no, Pardo, dai, Pardo, su. Il saluto romano come un reato quando il pugno chiuso, che è simbolo di un comunismo, storia, che ha fatto molti ancora più morti. Questa storia. Caro Filippo, su questo ti devo darti ragione. Non puoi dargli ragione perché è una falsità. No, non è una falsità. Il pugno chiuso non è un reato. Ragazzi, al di là delle chiacchiere, la storia, eccetera, il comunismo in Italia, non è quella la cosa importante. Il comunismo ha fatto milioni di morti. Senti, in nome del comunismo. Sono morti in Germania. Vai in Germania a fare il saluto nazista e vediamo come va a finire. In Italia c'è stata un'altra storia. Voi dovete guardare oltre i confini, in Italia è un'altra storia, uguale alla Germania, ma guardate oltre i confini, abbiamo leggi diverse, guardate oltre i confini, siate internazionali. No, il comunismo ha fatto milioni di morti e il simbolo del comunismo qual è? Il pugno chiuso. E allora in teoria anche il pugno chiuso, uno dei simboli, dovrebbe essere bandito, dovrebbe essere trattato alla stregua di un crimine. Abbiamo detto mille volte lo ripetiamo. Ragione Filippo, io non vedo politici di sinistra a twittare sul pugno chiuso perché è più igienico, però. Perché anche il pugno chiuso sarebbe igienico. Ormai come non saluto. Lo fa più nessuno il pugno chiuso. Non lo fa più nessuno, soltanto questo la Russa e altri amici suoi giocano sul fatto del saluto romano. Il pugno chiuso non lo fa più nessuno. Il saluto romano lo fanno ancora. Il pugno chiuso ormai, se uno lo fa, arriva un'ambulanza e ti porta a manicomio. Oggettivamente, se uno fa il pugno chiuso ormai viene visto come un pazzo scatenato. Diciamoci la verità, ragione Feltri. Cioè, ormai in una manifestazione, se uno fa il pugno chiuso, lo prendi, arrivi l'ambulanza, scusi, un attimo, lei ha un problema, lo porti via. Pugno chiuso, mi sembra, no? Non lo fa più nessuno. Saluto romano, oggettivamente lo fanno un po' più di persone. Comunque mi ricordano che il pugno alzato, il pugno chiuso, viene usato, veniva usato nel movimento afroamericano del potere nero. Allora? Anche quello dei diritti civili, quindi non è soltanto attribuibile. Ma chi è questo qua che ti rompe i coglioni con queste stronzate che non frega un cazzo a nessuno? Non è attribuibile Marco soltanto da Monza. Chi è che ti, alla sinistra, diciamo, Marco da Monza, marxista e liberista. Ascolta, io solo una frase volevo dire. Dimmi la frase, dimmi. La frase era che se il signor Parenzo pensa che là in Germania sono più seri di noi, no? Tu che cosa in Germania? Che non lo trattiene nessuno, non lo trattiene, perché non fa ridere un cazzo di nessuno. Come si chiama? Chi è questo qui? Chi è questo? Marco da Monza. Marco da Monza. Con le sue imitazioni di Preciso. Marco da Monza. Mi fate sentire Mughini un attimo? Sì, cosa Mughini? Chi era quel cretino di poc'anzi? Non ho capito, scusa Mughini, mi posso sentire Mughini un attimo? Chi era quel cretino di poc'anzi? È Marco da Monza, Gianpiero. Ragazzi, veramente siete veramente Marco da Padova, Paolo da Padova, vai a fare in culo, Paolo da Padova, dai. Pronto? Dimmi Paolo, dimmi. Ciao, ciao Cristiano, ciao. Avanti, ritmo, ritmo, Paolo, dimmi. Santo Dio, allora, domanda spontanea che mi è successa sulle sardine, cioè che vorrei sapere, una curiosità. Cosa ti viene in mente allora, sulle sardine? Semplicemente quella manifestazione che hanno fatto a Bologna. Ancora con sta manifestazione di Bologna, un mese fa, due mesi fa è successa, dai Paolo! Sì, momento, ma il fatto che hanno che avevano un palco mega galattico, chi è che l'ha pagato? Ma non lo so chi l'ha pagato, amico mio. Non lo so, Soros. Io ho attaccato le sardine dall'inizio alla fine, proprio in maniera viscerale, e continuare ad attaccare perché sono il nulla più assoluto. Però perché, di chi ha pagato il palco non me ne frega un cazzo. Posso dirti? Non me ne frega un cazzo di chi ha pagato il palco. Se l'avesse pagato qualche imprenditore amico o qualcuno, meglio così, che si sappia, chi se ne frega. Io sono per la trasparenza. Perché sembra, capito, Cruciani, che siano. Le sardine sono uno dei tanti movimenti di sinistra in questo paese. Non c'è niente di strano, di bizzarro. Movimento di sinistra in questo paese, basta. Molto semplice, non è una cosa così strana. Capitanato da Santuzzo, San Minchia, Santori, ma perché non fare Emilio Fede? Cerchietto d'oro, cerchietto magico, e basta. Un ragazzo che si è inventato una cosa anche con una certa bravura, una certa astuzia. Va benissimo, Santuzzo. Movimento ha intercettato de un malessere, ma non lo so. Non ha intercettato è un malessere. Movimento de sinistra, basta. Ma è molto semplice. Sicuramente non è sovranista, questo no, è sicuro, ma di sinistra, proprio gente di sinistra, ma va bene, ma non è un crimine, però è così, è proprio gente di sinistra, no, ma di sinistra, come diceva una volta, Giuliano Ferrara, prima di prendere questa sua vena antisalviniana, giudicava, ma quelli sono di sinistra, di questi movimenti di sinistra, che Giuliano anche è stato un grande dirigente. Fermo là. Adesso la colesterolo? Prova Colesterolact. Colesterolact contribuisce a mantenere livelli normali di colesterolo nel sangue. Colesterolact, 2 mesi di integrazione a soli €19,90. Acquistalo in farmacia e parafarmacia. Una pecorella, due pecorelle, tre pecorelle. Difficoltà 21. Nel prendere sonno? Stress? Smetti di contare le pecore. Conta su Melatonina e Valeriana Act. Il buon sonno a soli €9,90. In farmacia e parafarmacia. Per migliorare la tua infrastruttura IT, progettiamo insieme la soluzione Cloud Enterprise perfetta per le tue esigenze. Perché con Aruba Enterprise il cloud è a forma d'impresa. Scopri le soluzioni IT di Aruba Enterprise. Alge Collection, la vetrina di Idrocentro. Per il bagno, la cucina, il pavimento, il rivestimento, il legno, la ceramica, la pietra, il marmo, il benessere. Con prezzi chiari e facili da consultare su algecollection.it. Alge Collection, qualità dei prodotti ed efficienza dei servizi. La Zanzara. Colleghi, concludiamo il giro sull'ordine dei lavori. Deputato De Luca, sempre sull'ordine dei lavori, prego. La ringrazio, Presidente, ma semplicemente perché non è possibile tollerare ancora un simile numero e cumulo di bugie che vengono raccontate in quest'Aula. E ricordiamo semplicemente alcuni dati che poi possono essere interpretati da ogni cittadino italiano in piena coscienza e conoscenza. Il trattato è stato negoziato per mesi dal governo giallo-verde di cui era vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini. Per mesi interi! Per mesi interi! Dal dicembre dello scorso anno! Per mesi interi! È stato negoziato da voi! Dal ministro Tria! È stato negoziato! Per mesi interi! Per mesi interi! Dal dicembre dello scorso anno è stato negoziato da voi, dal ministro Tria, è stato negoziato per mesi interi. Minchia come picchia De Luca. Schifosi sudici, andate a tossire a casa vostra, pezzi di merda. Ci infettate anche il tutto, fate schifo, pezzi di merda. Comunque, giusto per inciso, Gesù Cristo sta tornando. A mio discapito, capito? Ciao Cruciani, dopo che ti sei fatto il massaggio in diretta, sai, sono stato da due mie amiche cinesi. Gli racconti al mio amico Cruciani cosa abbiamo fatto? Che avete fatto? Che avete fatto? Che abbiamo fatto? Dai, raccontaglielo. E dai? Dai, raccontaglielo. Che avete fatto? Scontato che avete fatto. E vabbè, glielo racconti, dai. Che gli abbiamo fatto? Ciao. Che abbiamo fatto? Tu vieni. Sì. Che abbiamo fatto? Massaggio. No. Poi? Poi? E poi abbiamo fatto? Poi quindi le palale. Abbiamo scopato o non abbiamo scopato? No. Sì. Abbiamo scopato? No. Dì che abbiamo scopato? No, solo a massaggio. Non è vero. C'è anche la sua amica, ciao. Ok ragazzi, noi abbiamo parlato la settimana scorsa del calo di affluenza ai centri massaggi cinesi e non solo ai centri massaggi, anche dalle prostitute cinesi. Oggi leggo un pezzo su un quotidiano che dice: oltre ai ristoranti eccetera c'è anche questo tipo di perdita economica, i centri massaggio soprattutto a Milano. Beh, certo. Calo drastico delle presenze, dunque non era una cosa completamente inventata. C'è un signore che si è iscritto, piccola parentesi calcistica come al solito caro Parenzo, c'è un signore che si è iscritto al club dell'anti-juventinismo militante, che è un club molto largo in Italia, che comprende anche te, comprende anche altre persone. No, gente che pensa che la Juventus vinca gli scudetti perché ruba. No, perché magari ruba. No, questo non... è quanti il club. Sono gli scudetti della Juventus? Ma lascia perdere, quanti adesso sono? Lascia perdere 30, queste discussioni. No, perché è importante saperlo. No, ma lascia perdere. Allora, questo signore è un nuovo iscritto. Peraltro mi dicono anche tifoso della Juventus, forse in età giovanile, eccetera, ma è diventato presidente della Fiorentina. Il paesà commisso, signor commisso. Senti, ieri, poi chiudiamo la parentesi. Ma altrimenti... commisso anche come venditore sta molto simpatico. No, a me pure sta simpaticissimo Commisso. Perché è un carico, una storia anche sua personale molto divertente. Io di calcio, come sai, non so Commisso, nulla. Sta simpaticissimo. Ma Commisso invece mi sta a molto simpatico. A te stanno simpatico. Simpatici tutti quelli che hanno molti soldi, innanzitutto, di principio. No, io non lo so, stanno, Commisso. Non ti no, stanno antipatiche lo so. Le persone Commisso, che hanno molti denari, diciamo. No, adesso non dipende, non è un però una, di solito non sono criterio. Persone cui sei avverso per una questione di principio. Non è un criterio. Commisso invece mi è simpatica la sua storia. Commisso. Da uomo, del popolo, uomo sì, anche vero, molto fatto povero, i soldi, è diventato milionario, è emigrato, è diventato milionario, è una storia straordinaria, andrebbe raccontata. Beh, adesso dovremmo raccontarla, no, dovremmo fare no, una puntata, noi no, andrebbe raccontata con le telecamere, naturalmente fa tutto un grande racconto. Molto arrabbiato, guardi, io sono stato qui sette mesi, e allora? Non ho mai fatto critica agli arbitri, ok? Io credo che la Juventus è, quanto c'ha? 350 milioni di ingaggi, paga i giocatori loro, non c'ha bisogno dell'aiuto degli arbitri. Degli arbitri. Ok, lascia okay. che la partita si vince o si perde nel campo, no? Tramite i regali che ci fanno gli arbitri. Questo non è giusto per il calcio italiano. A me fa impazzire come dice arbitri, non è una presa per il culo. Ma sai perché è una grande storia, un grande archetipo? Ok, dice sempre ok. È un grande archetipo perché è un calabrese. Okay, perché utilizzi è un queste parole complicate, meraviglioso. È un, se la vanno a cercare. È un grande archetipo perché lui dalla Calabria è partito. Ma chi se ne frega? È andato in un altro paese, negli Stati Uniti. Vedi che il calcio italiano è veduto in tutto il mondo. Quando vedono bellissimo. Queste porcherie, puri quelli fuori dall'Italia si disgustano di quello che vedono qui. A me la cosa che mi entusiasma di più è questo accento, questo accento italiano, questo italiano, ma è meraviglioso, io lo trovo meraviglioso, non cambiare mai, ma non lo dico con ironia, non cambiare mai, commisso, ti prego, non cambiare mai, non cominciare a parlare italiano come... lo parliamo, insomma, come cerchiamo di parlarlo noi. Mai, non ti venga mai in mente, mai. Mantieni. Però diamo anche un elemento. Mantieni. Tieni commisso, duro. Si trasferisce negli Stati Uniti, non mi ricordo se giù, a 10, 11. Giù, una serie di puttanate, detto vero, poi detto che va bene che mantenga questa cosa, ha detto una serie di puttanate pazzesche, di puttanate inaudite. Allora, Giorgio, provincia di Como, avanti tutta, dai. Giorgio, provincia di Como, dimmi. Che succede? Questo... Volevo intervenire, Cruciani. Questo è Masoccone, dimmi. Sulle polemiche che continuate a fare sugli omosessuali. Che succede sugli omosessuali? Chi l'ha fatto? Ma chi l'ha fatto? Ma continuate, Parenzo, a difendere gli omosessuali. Ma difendere? Che vuol dire difendere? C'ho anche qualche amico. Però, ma che vuol dire difendere gli omosessuali? Continua a dire che c'è un razzismo nei confronti degli omosessuali e tutte queste cose. Ma storie, nessuno lo dice che c'è razzismo nei confronti degli omosessuali. Poi dite che è una cosa normale il rapporto tra omosessuali e il rapporto tra uomo e donna. Ma quello che mi permetto di ma dire. Ma scusa, io... non ho capito che il rapporto tra due uomini quando si inchiappettano non è normale, secondo te? Cioè... Ma tu devi mettere il cazzo nella merda o la bocca dentro ma la cosa merda, c'entra? Scusami. Ma cosa c'entra? Ma perché la devi buttare? Ma cosa c'entra? Ma che persona schifosa. Ma stai tranquillo, ma non ma l'abbiamo già l'abbiamo schifosa. Capito qual è la metafora, l'abbiamo capito, ma cosa c'è? Che persona schifosa. Ma a parte Masocco, scusa, io ti segnalo schifosa. No, ma cosa c'entra? Persona ti posso schifosa. Questa è la traduzione, come schifosa. Dire, masocchiana di questo ascoltatore al fatto è una persona che schifosa, dal sedere, non è dal sedere nel sedere non si entra, ma fuori esce e basta. Però ma se la natura però, ti ha creato Giorgio, per, posso per dirti non una cosa? Malattie. Sì, ma cosa c'entra? Ma Giorgio, posso tu segnalarti? Tu sei una malattia ambulante, infatti. Posso... No, sei tu la malattia stai ambulante. Stai zitto un attimo, Masocco, persona posso segnalarti questo, posso segnalarti che esistono anche i condom, tra l'altro, per ovviare non se la deve mettere in testa. In ma testa se lo metto, è fatto per metterlo in un certo buco. Ma chi l'ha in detto? Ma chi lo ha deciso? Tu? L'hai deciso ma tu? No, non lo chi io, lo ha deciso? Ma, chi, ma la Santa bocca, Inquisizione? La Santa Inquisizione? Fosse, dai. Ma se la bocca fosse piena di merda. Ma se, uno vuole, avere un rapporto sodomitico, come direbbe Ruggero, qual è il problema? Quale fastidio ti dà? Quale fastidio ti dà? Dove ci sono le malattie? Ma chi se ne frega? Ma porta ma questo è pazzo. Ma che te ne frega a te di come lo fanno? Ma che te ne frega a te di come fanno all'amore gli omosessuali, i froci, ma gay, me non me ne frega niente, e allora no, perché li condanni? Perché li condanni? Ma non condanno, state a casa vostra o sto a casa mia? Volete ma che vuol dire stanno a casa vostra? Ma non fatelo vedere alla gente che cosa non fate vedere? Perché non, ma chi lo fa vedere? Ma chi lo fa vedere? Ma chi lo perché secondo la merda è vomitevole secondo te? Allora io non questa metà metafora, è ridicola. Io voglio dare l'indirizzo di casa di questo infame. Ma perché? Dare l'indirizzo di non sono un infame, sì. Parenzo, poi voglio dare l'indirizzo di casa. Masocco Giorgio, indirizzo di casa. Ma la signora l'indirizzo di casa di questa. L'indirizzo di casa. La laurea non l'ha potuta prendere, la laurea, perché l'hanno portata nei campi di concentramento. Non è vero, non ha mezza laurea. Ma chi se ne frega? Ma chi se ne frega? Masocco che abita a Como. Andate a vedere Masocco. Ma che te ne frega della laurea? Di ma cosa, chi se ne frega se uno ha un titolo di studio o no? O uno non ce l'ha? Ma imbecille. Chi se ne frega? Chi se ne frega se uno ha un titolo di studio o no? Non è che può parlare solo chi ha un titolo di studio. Dai. Ma il cazzo nella merda. Lo ciao, ma anche, ciao, ciao Giorgio. Ciao, ciao, ciao. L'argomento più stupido che si può usare, che è un argomento alla De Mari sugli omosessuali, è questa cosa qui del modo in cui trombano. Tra l'altro anche gli eterosessuali lo fanno. Cosa c'entra? Cosa c'entra? Diamo come argomento? Indirizzo di casa, così perché la gente vuoi dare l'indirizzo di casa? No, ma scusa. Così... Perché? Ma così, Massimo da Roma, no, ma non fare il gioco che magari. Ma in che gioco cioè, sta? Così in che passi zona sta? Dalla parte del torto, no? Ma in che zona sta, Masocco? A Cantù, Massimo da Roma. E perché non dà il suo cellulare, ad esempio? Dia il suo cellulare, così si confronta con gli ascoltatori questo della radio. Questo potrebbe essere una buona idea. Massimo da Roma, Massimo da Roma. Sì. David, minoranza. David, minoranza silenziosa. Poi ti spiego perché minoranza. Dimmi. Allora, io a casa ho il poster di De André, dei Iannacci, dei Gabber. Mo abbiamo messo quello. Parietti e di Sabino Cassese, perché bravo. Le dichiarazioni di Alba Parietti è una vita che le fa pure Sabino Cassese e nessuno lo dice. Vabbè, ma adesso chi se ne frega? No, Cassese non lo dice. Cassese non lo dice. Cassese non è l'ultimo, David. Cassese non le Cassese dice. Non, è molto... non ho capito, ma di che stai parlando? Scusa, delle dichiarazioni di Alba Parietti sul fatto che dovrebbero votare solamente quelli che no, sanno. Giuseppe, diciamo. Voglio spiegare a David perché si ostina a dare possibilità alla Feccia di rimettersi in carreggiata. David, una decina di giorni fa hai parlato con qua la signora Lucia De Giordenone, sedita a Meretricio su strada, gli hai detto, signora, lei si ricorda il film... Brutti, sporchi e cattivi con Nina Manfredi, con hai omesso che di dire che era detto di scuola. Come pretendi che quella abbia visto un capolavoro del genere? Tu pretendi che la Feccia si riabiliti? La Feccia, ma perché chiami Lucia da Pordenone, che è una grande lavoratrice del sesso, è una straordinaria prostituta? Perché a livello culturale stava zero, Giuseppe. Ma chi lo dice ancora? Ma che sei? Sei d'accordo con Mughini che dice che noi siamo un popolo di analfabeti? Ma di che stai parlando? No, ma non è una constatazione, Giuseppe. Se io e David domani andassimo a San Basilio, a Torbrignattara, a Torbella Monaca, a Scampia, con il sergente su Neve Mario Riconisterne, ci mettiamo 100 copie, quelli ci visciano sulle copie, perché non vogliono essere recuperati, la mediocrità rimane mediocrità, e David con tutti sti voli pindarici campa male. Io capisco, David, che tu devi dare speranza ai tuoi figli, però tu ai tuoi figli gli dai delle speranze vane. Perché sto paese è finito, tu continui a dare speranza. C'è spazio per tutti, perché secondo me se David, tu regali un buon libro, le persone si innamorano della cultura. Ha detto che chiunque. L'altro giorno il poliziotto De Pescara ha detto che la Segre perché parla. L'Italia è piena di gente come il poliziotto De Pescara. Non è poliziotto De Pescara, è un vigile urbano. La popolazione della Zanzara è la popolazione dell'esterno dell'Italia. Questo è vero, tutto quello speriamo che di no. È un vigile urbano di San Benedetto. Comunque, ciao Massimè, ciao, ciao. Chiedo scusa, un momento, chiedo scusa, pubblicità. La Zanzara. Feltri, aspetta, Vittorio Feltri. Chi non è, rosso, chi non è progressista è considerato un idiota da prendere a calci nel culo. Non è ancora cominciato il festival, a me mi ha già rotto. Poi tutti diciamo. Ma lei lo guarda il festival? No, me ne guardo bene. No. Me ne guardo bene. Purtroppo in quei giorni non si può guardare la televisione perché è tutto Sanremo, post Sanremo, dopo festival, prima del festival, chiacchiere, giornali. Non capisco perché susciti tanto interesse questa manifestazione. Intendiamoci, ognuno è padrone di fare quello che vuole. A me personalmente mi disgusta. Vabbè. C'è una cosa che gli interessa, no, neanche il festival, nulla. Senti, poi parla in questo modo, degli stupri. Senti, è una cosa un po' strana questa, senti. credo che sia facile violentare una donna. Io faccio fatica con una che me la dà volentieri, si figuri con una che non vuole, perché poi lì bisogna esercitare anche tutti i muscoli per tenerla ferma. Se io non riesco a capire. Adesso questo è effettivamente un po' inquietante, devo dire. E dice che per stuprare una donna ci vuole una, cioè, un messaggio devastante. No, questo è serissimo, è una cosa gravissima. No, che vabbè, detto. Ha detto semplicemente che è pazzo, che lo stupro è una cosa complicata da realizzare. Dice, ma in che roba non è? È un messaggio incredibile, è completamente messaggio, matto. Dai, è un messaggio, dai, messaggio. Ma quello è pur sempre il direttore di una baracca, ma è pur sempre il direttore di un giornale. Però qualcuno, ma io dico, infatti, che non è un vero giornale. Ma ti pare che uno che ha una responsabilità pubblica dica queste minchiate qua? È una cosa di una gravità inaudita. Cioè, tu dici dire che una fatica. Ma tu stai scherzando, ma io sono molto serio. È un messaggio devastante. Vabbè, è un messaggio devastante. È Feltri che parla. Ma non adesso, è Feltri. La domanda, allora, non la stai dicendo che è un rincoglionito. È un estratto. Allora stai dicendo che è un rincoglionito. No, sta parlando del fatto che ci vuole una grande forza fisica per stuprare una donna. Ma detto così è una cosa di una gravità unica. Ma pensa a quelle donne che, che hanno subito Cina. Violenza. Cosa, senti cosa sulla Cina. Senti possono sulla sentire dopo aver. Ma è una cosa pazzesca. Tutti noi abbiamo paura di ammalarci, quindi non c'è nessun tipo di razzismo nei confronti dei cinesi, anche se quando uno vede un cinese si mette le mani in tasca e si tocca perché ha paura. Ma ha paura di cosa? Chi si mette le mani in tasca? Ma è un condensato di deliri ormai, neanche di luoghi comuni. Perché comunque, quando ragazzi, vedi un cinese ti metti le mani in tasca? Perché? Ho voglia di... Ma come lo fa? Ma tu ti rendi conto che questo ha diretto un giornale, questo qua? Ma scusa, non ho capito. Ha detto quello che ha detto sullo stupro. Ha detto che si tocca i coglioni quando vede un cinese, lascia perdere. Ma no, hai fatto sentire un 1-2-1-2 che è agghiacciante, prima sul cinese e poi sugli stupri. Ma basta, toglietegli, allora, toglietegli la direzione. Ti voglio fare incazzare, ti voglio fare incazzare. Ma non ci va mai al giornale che se ne stia a casa, no? Ti voglio far sentire una cosa. Ma dai, ma digli qualcosa, no. Guarda che è gravissimo quello che ha fatto. Allora, ti ricordi quello là che difendeva Polegato, il fascista che ci ha aggredito, eccetera? Te lo voglio chiamare perché voglio capire se è matto vero oppure no. Che cazzo ne so, quello. Ho recuperato il numero di telefono di quello. Ma chi che... No, ma senti, senti, senti, chiamiamo, ragazzi. Pronto? Oh, chi è? Sono Cruciani. Oui. Oh, mi hai mandato un messaggio, ma che vuoi da noi? Non ho capito. Che vuoi da tu? Tu a me prima mi hai insultato a me. Io? Con Parenzo mi ha insultato a me, da me, ma quando? Quello e quell'altro mesi fa. Ma poi un'altra cosa, ma come cazzo vi permettete voi a trattare una persona di 68 anni in quel modo là, tirargli la roba in testa? Ma chi? Chi? Voi, lì a Modena, nella concessionaria della Renault. Ah, Polegato dici, Polegato. Sì, Polegato, sono stato il sabato da lui. Che sarà mai? L'avete trattato come una merda, per trattare. Ma cazzo vi permette? Ma che cazzo vi credi di essere? Ma un buffone, calma, calma, calma, calma. Ma quello è un buffone. Tu sei un buffone, tu un pezzo di merda che c'è in barca, ma quello è un buffone. Tu sei un buffone, coglione. Perché non facciamo un confronto? Perché non facciamo un confronto? Sine Iraq Studio. Stai zitto, animale, fai schifo. Pidocchio, fai un pidocchio. Facciamo un confronto. Voi parlate di democrazia. La democrazia si è chiamata dove state a casa voi. Che c'è la democrazia? Che c'è la democrazia con un pagliaccio che si veste da fascista? Tu non puoi trattare così la gente. Chi cazzo ti credi di essere, coglione? Chi ti credi di essere? Chi ti credi di essere? Sì, un attimo. C'è un fascista, non è un criminale. Mettiamoci come in no? Testa. Ma come no? No, non è un criminale. Ma che scherziamo? Non è un criminale. Certo che sì, ha idee criminali. No, certo. Non è un criminale. Assolutamente non è un criminale, sì. Perché non è così. Comunque, si è beccato la torta in faccia. Nulla di grave. Come al bagaglino. Trattato come al bagaglino. Trattato come al bagaglino. Nulla di male. Ascoltami, nulla di male. Ascoltami, coglioncello. Il tiramisù è finito giù. Il tiramisù è finito giù. Il tiramisù. Il tiramisù è finito giù. Che facevi? Il tiramisù è finito giù. Che facevo? Io lo piccavo nel culo il tiramisù. Nel culo lo piccavo. Allora, devi stare tranquillo. Un tiramisù. Lui è stato un signore, è stato. Allora, perché lui poverino, non ha reagito perché un fascista è un signore prima di tutto. Oggi è criminale. Andate a leggere la storia. E poi, si è preso il tiramisù sulla testa. tagliare tutti i dati dai partigiani. Scappavo da Tito, arrivavano qua, li massacravate. Ma tu sei fascista? Tu sei fascista? Sì, sono fascista. Che secondo te il Duce, che cos'è il Duce? Signor Mussolini? È stato un grande statista e un grande italiano. E allora perché parli di democrazia? Scusa, dice la democrazia, non fate parlare. Perché se parliamo di democrazia negli anni 2000 che c'è la democrazia, anche c'è. I fascisti devono avere parola. Attenzione, infatti parlano sempre. Non vogliono la democrazia, sapete qual è il problema? Che nessuno dice, perché voi ce l'avete con Mussolini, a parte il fatto che un fascista non è un antifascista, perché non confondiamo la merda con la cioccolata. Io sono un fascista italiano e io prendo distante dall'olocausto. Erano alleati, per carità, non c'è nulla. Erano alleati, per carità, erano alleati, non fa niente. Ma comunque, a parte lascia perdere. Un tirami su in faccia non ha mai fatto male a nessuno. Il bagaglino. Non rompete i coglioni. Ma non si fa per educazione. Ma quale educazione? Un fascista è un ardito. Anche Mario Giordano su Rete 4 ha fatto la stessa cosa, ha fatto parlare la bullizzata. Finalmente ha capito che è un pagliaccio. Finalmente si è capito che quello lì è un pagliaccio. Uno che gira con il fez in testa è un pagliaccio. Ma quale contraddittorio? Con un clown. Con un clown del circo. Perché voi andate a studiare la storia, che la storia dice tutt'altro. Mussolini, tu che sei un ebreo, ok, Mussolini ha salvato tanti ebrei, tanti ha salvato. Sui treni li salvava. Però lasciamo perdere questo, perché che c'entra i frocioni? Scusa, non ho capito che c'entra i frocioni. Adesso ce l'hai pure coi froci, sai? No, non è che ci sono i froci, perché io, per l'amor di Dio, non faccio quello che cazzo ne voglia, faccio quello che cazzo a me. Però ho capito, è un modo di dire, froci non ti inculo. Basta. Come cazzo lo vuoi, Luciano? Non fai le pucce, non mi rompo il cazzo, mi hai chiamato, non mi rompo il cazzo, sei delle merda. Se vuoi un confronto a quattro occhi, chiamiamo un confronto con Pollegato, con me, che con altri, e parliamoci, fai parlare, capito? Andiamo anche una trasmissione, c'è un problema. Sembri... E poi capito che molto gente che sa la storia della razza. Mi sembra. Voi fate parlare, voi date 30 secondi alla gente per parlare, ma... e poi lo oscurate. Mi sembra... Punto. Ma mi sembra che sei un po'. Ti stai scaldando un po' troppo. Sei uno un po' pericoloso, cioè sei un po' manesco. No, io non sono pericoloso, io sono soltanto quando uno manca di rispetto a una persona mi incazzo. Che sarà mai una torta? C'è una merda, Cosciani l'ha fatto. Ma non rompere i coglioni. E buttargli il testo e tirami dux. Ma quello che mica l'ho tirato io, tirami dux. Prendi la concorda. Ma tu hai permesso, tu sei il conduttore della trasmissione, noi non devi permettere. Una torta in faccia è stato un gesto marinettiano. Eia! Certo! Va bene, la prossima volta vengo io, ti dico un secchio di merda in testa, vediamo se tu dici qualcosa. Testa di cazzo. Ma vai, cagare, vai, ciao. Ma vai a cagare tu, strazzo di merda. Vai a far culo, te hai fatto passare c'è in parte, andate a fare il culo per il pezzo di merda tutti quanti, strozzi di merda. Abbiamo detto tutto, mi pare, no? Scusami, io però mi ricordo che i fascisti non erano così, scusami, cioè abbi pazienza, uno dovrebbe anche attenersi alla sua storia, no? Ma questo in qualche qui modo, non è, no? Questo qui è una persona che è disturbata, non c'entra niente, fascismo, c'entra, okay, è una persona ragazzi, disturbata. Allora noi adesso passeremo, perché fra poco chiameremo Oliviero Toscani, passeremo, capite, da un estremo all'altro, da questo signore che è uno di quei fascisti veraci, eccetera, a Oliviero Toscani, Ivan da Cosenza, vai Ivan, vai, avanti tutta, dimmi. Allora, caro depravato, volevo dire... A me, lo dici? Sì, perché c'è qualche altro depravato, qualcuno in Italia... Ah, guarda, la depravazione non ha mai fatto male a nessuno, la depravazione, ti segnalo. Ma è che dice niente, ti sto solo chiamando depravato. Allora, dimmi Ivan, da Cosenza, ha una voce un po' che mi dice qualcosa, però, vabbè, Ivan, dimmi. Eh sì, perché non posso... Vabbè, dimmi. Mio nome perché ti calchi sotto. Allora, dimmi, allora, Ivan, dimmi. Allora, di che vuoi parlare, Ivan? C'è una situazione di eventi. Prima il braccio di ferro fra il Vaticano e la Cina, per la nomina dei vescovi. E allora che c'entra, scusa? Adesso. Poi c'è la donna cinese che strattona il Papa. Ma che c'entra la donna cinese che strattona il Papa? Allora? Ma stai zitto, non capisci niente, stai zitto. Cinese che strattona il Papa. Dove vuoi arrivare, caro Ivan? Tu sai come si chiama quella donna cinese? Come si chiama? No, dimmelo, non lo so. L'hai mai letto da qualche parte? Non me lo ricordo adesso, non ho seguito proprio. E passo... Poi ci sono altri eventi, viene ucciso Soleimani, viene ucciso il capo settore della CIA. Che c'entra col virus questo? Perché tu vuoi arrivare al virus? un'arma biologica che viene liberata per attaccare la Cina. Tu forse non hai sentito parlare. Ragazzi, di per favore, cosa, mi chiamate per favore la vecchia ambulanza che una volta veniva utilizzata in questa disgraziata trasmissione. Quando quelli come voi danno del matto a uno come me, significa che uno come me sarà un giorno celebrato. Ma celebrato da chi? Celebrato al manicomio, al matrimonio, al manicomio ti celebreranno sicuramente. Senti come che re, l'ambulanza come dietro, re, senti. Come re. Senti, senti. Ponte di Genova. Senti dietro l'ambulanza. Ma questo è quello che pensa che i sauromati, controllano il mondo. L'altra sera non mi hai fatto parlare, stavo solo dicendo che la Segre ha lavorato alla Siemens e Siemens era un ebreo. Alla CIA, la Segre ha lavorato alla Siemens. Alla Siemens. È stata costretta a lavorare. Ma non lo so, non mi interessa. Ma sono cose che non mi interessano. Perché tu sei matto. Ma sei matto. Perché sei matto. Perché sei matto. Perché prima o poi ti ricovereranno e sarai giustamente festeggiato e incoronato come re dei matti. Fermi tu. Tutti. La zanzara. Top top! Io così a fine anno non ci arrivo. Io così a fine anno non ci arrivo. Ma è possibile che con tutti i soldi e c'hai sole 24 ore non ci sia modo d'avere un'app per ascoltare il podcast che funzioni? Ma è più le volte che non funziona, bravo, che bravo. Ci mette un monte a caricare le puntate, è lenta come un bradipo. Bravo. Che cazzo, Spilorci Taccagni. Giusto, all'attacco, no, magari Spilorci Taccagni no, proprio un'altra cosa, comunque vai. Ma perché non fate un'app decente? Fa schifo, fa cagare questa. Ma io dico, ma mi ci fate venire nervoso, senza contare poi le pubblicità nelle puntate. E se vuoi ascoltare la puntata senza pubblicità la paghi. Ma va, ve ne andate a fanculo. Andatevene a fanculo. Oh, c'ha pure ragione questo, eh? O no? Ok, notavo una cosa, caro Davide, che nella foto con Benetton, Toscani e Santuzzo e le sardine manchi solo tu. Sarebbe stato straordinario. Perché non sei andato anche tu? Ti prego, mi avresti fatto un regalo straordinario. Perché non ho motivo per andare a frequentare le sardine io. Sarebbe posso andare a fabbrica di Oliviero Toscani a parlare di comunicazione. Ma sarebbe stato sarebbe stato stupendo. Non ho alcun motivo per frequentare le sardine. In quel Pantheon mancavi solo tu. In quel Pantheon, no. Ma che male ci sarebbe a conoscere Benetton? Che male ci sarebbe? No, Benetton infatti non ho nulla di... Però in quel Pantheon, con il signor Toscani, con Santuzzo e tutte le sardine. Regolarmente. E Santuzzo e tutte le sardine. Cioè, mancavi Santori, solo tu. Santori. Solo tu mancavi. Non solo dileggiarlo. Tu. Solo tu mancavi. Allora ragazzi, io direi di chiamare Toscani a questo punto. Anzi, farei un ascoltatore. Anzi, no. Un'altra cosa. Devi sapere, caro David, che a un certo punto oggi racconto una cosa, un fatto personale. Sì. Come si dice quando si interviene, no? Per fatto personale. Per fatto personale. Allora, mi chiama un signore, a un certo punto, anzi no, ricevo una telefonata, non rispondo al numero visibile, 380 e top. Richiamo dopo un po' e mi risponde un immigrato. Dici, cazzo, non conosco immigrati io, li conosco solamente. Non conosco immigrati, nel senso che ho numeri di telefono di immigrati, cioè mi rispondo un immigrato. E quello mi dice: chi sei? Mi hai chiamato tu? Ma io ho visto il tuo numero di telefono su un treno per Caserta. Un numero di telefono. Pare che questi qua, napoletani in compagnia, abbiano scritto il mio numero di telefono. Ah, ho scritto: chiamami, sono una troia. Sai quando iniziativa sì, col mio, che ti giuro, col mio numero di telefono privato. Sì, il numero di telefono mio privato, ad averlo? Sì. A Napoli purtroppo circola, purtroppo in ambienti come c'è dire... un'iniziativa non violenta, un'iniziativa di protesta, un grande... Ma non lo so, hanno scritto da qualche parte su un treno, ma non solo, ma hanno detto anche sotto la metropolitana di Napoli, qualche deficiente ha scritto il mio numero di... Ma chi se ne frega, non è quella la cosa. La cosa incredibile è che questo qua cercava veramente cercava un omosessuale, un qualcuno... E tu come ti sei... hai chiesto quanto? A un certo punto come ho iniziato a capire, adesso lo chiamiamo, ti prego, aspetta, fai parlare me, ti prego, allora ti giuro. Ah, io figurati. Questo qua pare che abbia letto il mio numero con scritto le solite cose che si fanno, tipo, nell'area di servizio si faceva. Sì, no? Come no. Chiama questa troia e tu mettevi il numero di un tuo amico, un numero fisso di casa. L'abbiamo fatto tutti mille sì. volte. Sì. Sti napoletani, zitto, parlo io. Pronto? Oh, ciao, ci siamo sentiti oggi? Dimmi. Dimmi. Allora, non ho capito, ma mi ripeti un attimo una cosa, dove hai letto sto numero? Perché non lo so dove l'ho lasciato. Ok, ok, fa niente, non c'è problema, ciao. Ma dove l'hai lasciato sto numero? Dove l'hai letto? Al treno. Ma dove? Quale treno? Che ne so, quello di Caserta. Ma tu che cerchi? Perché hai chiamato? Non cerco niente, ciao. Ma come no? Ma hai detto prima che cercavi? Maledetto. Cerca l'amore. Richiama. Wind, stiamo trasferendo la sua chiamata. Questo cercava un po' di sesso. Sarà lì con la moglie adesso. Comunque, sì, può essere, questo può essere, vero, bravo. Allora c'è uno che scrive: non ho mai ascoltato prima il vostro programma. Mi domando perché una persona sana di mente dovrebbe sintonizzare la radio, sì, sul vostro questo programma. Questo è giusto, però. Questo non è sbagliato. Sentire voi che insultate e venite insultati dal vostro pubblico in un turbine di volgarità e deliri di ignoranza. Spero almeno che stiate lì per beneficenza, non per essere pagati. Non è sbagliato. Deliri di ignoranza è vero. Che fate è un insulto a chi non ha lavoro e a chi fa davvero informazioni. È stupendo. Matteo che io mi scrive questa cosa. Io sono in parte cosa. D'accordo sui deliri di ignoranza. Teniamo sono Toscani, in parte dai. D'accordo. Teniamo Toscani. Oliviero. Pronto? Sì. Sono Cruciani, come andiamo? Andiamo benissimo. Cioè, ti sei messo pure con le sardine, ti dico solo questo. Cioè, e non dico le niente, sardine, e non dico più nulla. Si sono messi con la gente intelligente. Cioè, tu stai dicendo le sardine sono... Sono un esempio, sì, di per dare energia alla gente. Allora, in questo momento la politica è come una città dove siamo tutti dentro nelle nostre case e c'è il terremoto. Allora, le saline ci hanno insegnato che bisogna andare in piazza per salvarsi dal terremoto, se no ti crolla addosso la tua casa. Cioè, non ho capito che cosa sono le sardine, una specie di... Capito? Guarda, fatti spiegare da Parenzo che è più intelligente. Non ho capito. Lui dice che le sardine sono la protezione civile sostanzialmente. Esatto, cioè... ti hanno insegnato che siccome c'è il terremoto la casa ti può cascare in testa. Ma veramente stai dicendo questo? Ma tu hai mai... in piazza anche di salvarsi. Ma che proposte hanno? Cioè, dimmene una, dimmi una proposta. Ma non è c'è la testa di vecchia politica, sei di destra. Cioè, basta andare in... Io a parte che non sono di destra, ma basta andare in piazza, basta andare in piazza per sei dire. Sei di destra, perché sono qualunquista. Sì, sei di destra. Sono di destra, va bene. E non è grave. Finalmente uno di destra con cui parlo. Ma scusami un attimo, Soliviero. Mi dici una proposta, una sola. No, allora, buona proposta è già quello che sono. Ah, quello che sono, il fatto che sono contro Salvini. Caso hanno 14.000 giovani che sono corsi in piazza, vuol dire che c'è una proposta. E quale sarebbe? Andare contro Salvini? Essere contro Salvini? Esatto, una proposta super buona. Super buona, basta essere contro Salvini e va bene, scendere in piazza contro Salvini. Dai, su. No, vuol dire contro Salvini, non vuol dire contro Salvini, contro quello che Salvini dice. Però diciamo in modo civile... Non andiamo a suonare ai citofoni, sì, bravo, non diciamo bravo, questo cattiveria. È giusto. Ha ragione. Adesso Oliviero Toscani che dà lezioni di bon ton. Tu mi hai chiamato e mi hai chiesto delle cose. Sto rispondendo alle tue domande del cazzo. Ma che domande del cazzo? Ti chiedo perché ti chiedo. Cerco di essere educato a delle domande pirla. No, sto dicendo che tu stai esaltando il fatto che le sardine non urlino, diciamo, a parte che non è vero, perché dicono un sacco di cose in piazza, ne dicono di tutti i colori. Odiano Salvini, movimento contro l'odio che odia Salvini. Questo è il punto fondamentale. Pensate? No, è il movimento contro l'odio di Salvini. E dunque è giusto odiare Salvini da un certo punto di vista? No, contro l'odio. Cerca di capire. E odiano, cazzo. Odiano Salvini perché odiano nessuno. Beh, no, se tu dici il contrario di qualcuno lo odi. No, loro, ma loro sono nate contro Salvini, dunque hanno messo. Loro sono nate per il riscatto della società civile. Il riscatto della società civile. Cruciani, io non ti odio. Ma certo, però ti considero pirla. Ma... capito? E ti voglio anche bene. C'è tanti amici che non sono la cosa incredibile è che tu dici, Oliviero, gli vuoi bene come si vuol bene a una persona un po' disagiata. Questo dici, no? No, gli vuoi voglio bene perché è un essere umano che non ha capito tanto, sì, ti capisco, ripongo. Non mi hai saputo, anche tu non mi hai saputo dire una cazzo di proposta che hai sentito in non so quante ore che hai ospitato queste sardine lì, per carità, non me ne dici una, dammene una, qual è? Dimmene una, avanti. Tu che non vuoi capire le proposte. Le hai sentiti per ore, dimmi una proposta che è uscita fuori, ma dimmene una. Non la sai, non te la ricordi. Ma cazzo, non vedi che testa da ragioniere? C'è una testa da ragioniere. Ma che insulto è la testa da ragioniere? Però poveri geometri, perché che ti hanno fatto anche i geometri? No, perché misurano. No, ma misurano. Scusami se sono uno pratico. No, non avevo mai sentito dire una testa da geometra. Ragioniere. Ma hai capito, geometra. Perché questi avete parlato di massimi sistemi. Avete parlato di massimi sistemi, l'odio. Ma che diceva Luciano Benettoni? Luciano Benettoni è venuto a salutare e è andato via, ma che cosa sono? I poteri forti. Ma quali poteri forti? Ma dai, che sciocchezza. Beh, una delle accuse è questa. Dire un sacco di cazzate. Ma Soros, dietro c'è anche Soros. Ma che purtroppo questi qua della destra non hanno un'idea, non sanno far niente. Mi facesse un assegno mensile Soros, lo accetterei subito. Ah, lo accetterei. Ma sì, quello non c'è dubbio, ma certo. Soldi da Soros li prenderesti tranquillamente. Ma tu. Certo, cosa mi chiede di fare? Ma vuole la società aperta, Soros. Scusa, ma è un grande per la democrazia, a battere i muri, ma mi sembra perfetto. La proposta delle sardine. Non è un sono le sardine. Un cazzo. Che hanno fatto cambiare il voto in Emilia-Romagna. Di così non so io. La Borgonzoni, che non sa neanche parlare. Se vinceva la Borgonzoni, che succedeva? Non ho capito. Cioè, ma guarda, ogni tanto dico, forse è meglio. Un paio d'anni di questi imbranati qui, poi veramente. Scusami, allora andiamo per ordine. La Maglia ha detto, guardando quella foto lì, Maria Giovanna Maglia ha detto che sei un pagliaccio. Ti dico solo questo. La Maglia è meglio che si guardi lo specchio. Perché non l'ho capito? Vabbè, adesso quello non c'è. No, perché cosa vuol dire pagliaccio? Se si guarda allo specchio se si guarda allo specchio dici si dovrebbe fare schifo. Così. Il di porro che dice sono un ubriacone. Ubriacone è un cazzone. Secondo te, ecco qua le proposte della destra. Non hanno idee, non hanno immaginazione, non hanno cultura. La destra italiana è ignorante. Ma che la destra ignorante? Ma che stai a dire? È vero, la destra italiana è ignorante. Pure la Meloni si è indignata. La Meloni tutti gli ignoranti, quando sono messi alle spalle, diventano cattivi. Alla fine credo che Benetton finanzierà le sardine. Secondo me finanzierà le sardine. Non ci sarebbe niente di male. Ma non diffondere fake news. No, ma ho detto non ci sarebbe niente di male se finanziasse. Ma scusa, qual è il problema? In maniera trasparente, posso dire, potrebbe finanziarla in maniera trasparente. Non abbiamo bisogno dei vostri consigli di merda. Ma guarda che è incredibile. Sponsorizza un centro culturale. Ma quello è un altro peticoglione. No, ma scusami. Buzzurri del cazzo. Ma scusami, non c'è niente di male a finanziare. Ma quale buzzurri? Ma chi fascisti di merda? Sei impazzito? Sì, fascisti di merda. Ma non c'è niente. Ma non c'è niente. Repressione alla cultura, via. Ma guarda che è incredibile. Senti, ma non ho capito. Hai visto Oliviero? L'ultima cosa, hai visto Oliviero il tweet di La Russa? Cosa ha fatto Ignazio La Russa? Che ha fatto La Russa? Sa anche scrivere. Ha fatto un tweet in cui ha scritto: per evitare contagi usate il saluto romano. Poi ha tolto il tweet perché qualcuno gli ha fatto notare che siccome stanno morendo delle persone del mondo non era il caso di fare battute. Per evitare contagi... Questa qua è la destra. Il massimo dell'immaginazione e la fantasia. Ma è una battuta. Ma dai, ma non è una battuta, ma la destra non ha fantasia, non ha cultura, non ha artisti, non ha niente, non ha scrittori. Non ha un cazzo. No, sono scappati. Se ci sono, sono delle eccezioni. È così. La destra è proprio buzzurra da noi, purtroppo. Ma comunque Porro ti ha dato dell'ubriacone e del cazzone ancora. Perché ubriacone? Su questa cosa qui, lui è un drogato, lo sanno tutti. No, questo assolutamente no, guarda, ti assicuro, io lo conosco da 20 anni, assolutamente no. Drogato no. Anzi, è un grande sportivo. Esiste ormai un'informazione che è diventata una roba da van spettacolo. I talk show, dici, tutti i talk show. Sì, disastro. Sono considerati nulli, zero, non valgono niente. Ma chi? Non sanno scrivere. Ma chi sarebbero? Chi sarebbero? Cioè Giordano, Porro, tutti questi qua. Ma Porro sa scrivere benissimo, peraltro. Pure del Debbio. Pure del Debbio. Sa scrivere, Porro. No, ha scritto dei bellissimi libri, Porro. Ma come no? Lui è una soubrette maschile della maschilità, lui è come Macario. Ma pure del Debbio così, no, dai, del Debbio. No, peggio ancora, però di più del Debbio è anche un salesiano. E beh, che c'è tra il salesiano? Salesiano che fa la maschilità. Comunque, io non ho capito, quali intenzioni hai con queste sardine? Di fare un movimento, di fare che ne so? Ma di, no, c'è già, non è movimento, sono dei giovani che pensano che forse bisogna vivere una vita migliore. Ma che vuol dire? Questa è una proposta della Madonna. Ma questo vivere una vita migliore è una proposta della Madonna. Ma io guarda, prova a pensare questo. Ti sei fatto trascinare dalla moda, ti sei fatto trascinare dalla moda. A cagare, ma dai, ti sei fatto trascinare dalla moda, dai movimenti, questi qua snob, dai movimenti snob, non c'è nulla di snob. Dai movimenti alla page, ma non c'è nulla di snob, nulla. Tra questi e i leghisti, che differenza c'è tra questi e i leghisti? Che fanno finta di essere... Sicuramente sono più acculturati. Ma che qua, ma che c'è? Sì, sicuro, cioè, ti posso garantire. Sì. Sto facendo le campagne contro l'Alzheimer. Mi ha detto un dottore che se tu sai una lingua o due straniere, aiuta a frenare l'Alzheimer. I leghisti, non sapendo, diciamo, non sapendo le lingue, sono più... Sanno parlare milanese, lombardo, neanche milanese. Dunque sono più soggetti, sono più soggetti all'Alzheimer. Non ho detto questo. Beh, sì, hai detto un medico. Non ho detto questo. Ho detto che per non avere l'Alzheimer non è male imparare una lingua in più. Finito. Ho capito. Se i leghisti la vogliono imparare, imparino. Ho capito. E quindi non avranno l'Alzheimer. Siccome tu sostieni che sono più ignoranti, e allora sono persone che... Sono mediamente più ignoranti, dai, ci sa. E dunque sono più soggetti all'Alzheimer, che ti devo dire? Cioè, la conseguenza che sì, faccio... Sì, purtroppo sì. Ma come si fa? Si dimenticano. Vabbè, un aiuto sociale. Un aiuto sociale, sì, cioè, ecco, peggio ancora, peggio ancora. La Zanzara. Combattenti di terra, di mare, dell'aria. Scusa direttore, ma tu il 25 aprile l'hai mai festeggiato? No, non te ne frega un cazzo. Mai, perché non mi interessa. Ma c'è una cosa che ti interessa, una? Sì, la figa. Ehi, di quello che dite non ci frega un cazzo. E a me non me ne frega niente. Se mi fate una domanda e poi io quando rispondo non vi va bene. No, ti inquietare, se no ti mando dalla professoressa. Basta, signori, buonasera, arrivederci. No, Vittorio, andate no. A fare in culo tutti quanti. Ma per l'amor di Dio, ma di quello che dite non ci frega un cazzo. Famo un po' come ci pare. Bevo una di troppo, poi divento un altro. Di cose serie non riesco a parlare. Ma c'è una cosa che ti interessa, una? Sì, la figa. C'è un po' di rabbia, però. Ma quale rabbia? Che cazzo di rabbia mi dice? Croce Lenzo. Cruciani, io ti odio, cazzo. Cruciani, renditi conto che tutti quei rincoglioniti che mettono i cartelli contro i cinesi, che evitano i cinesi, che hanno la fobia, che hanno la fobia anche dei giapponesi perché si somigliano, che mettono le mascherine che non servono a un cazzo, sono tutte persone che votano la Lega, è tutta gente dalla parte tua, sono tutti quelli di Casa Pound, sono tutti dei gran rincoglioniti di destra, coglioni. Buonasera. E infatti, però, in tutto questo, amico caro, ti segnalo che a Frosinone, che succede a c'è Frosinone, stato un episodio incredibile, sassi contro studenti cinesi. Vedo che la notizia comincia a crescere, a avere il giusto spazio che deve avere. Sassi contro studenti cinesi dell'Accademia. Quindi la questione è molto semplice. L'episodio è stato riferito dal presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini, ed è emerso durante una conferenza stampa della direttiva della direttrice dell'istituto Loredana Rea. Non c'è la caccia al cinese in Italia. Sassaiola contro gli studenti di nazionale cinese dell'Accademia di Bellani di Frosinone. Non c'è la caccia al cinese in Italia. Non c'è, mentre vi do la notizia. Sassaiola contro gli studenti di nazionalità cinese dell'Accademia di Bellani di Frosinone. Ma non c'è la caccia al cinese in Italia. Non esiste. Non c'è nessuna caccia. Ma guarda cosa è successo. Sassaiola contro gli studenti. Ecco, sembra quattro coglioni. Schifosi sudici andati tossire a casa vostra, pezzi di merda. Questo ci infettate anche lì tutto. È. Fate schifo, pezzi di merda. Questo è Frosinone. Può prendere dei pezzi da studenti cinesi dell'Accademia. Dai, ripeto, Frosinone. Ma sì, oggi letto, Sassi sì, contro. Sì. Non l'avevi data la notizia, ma però. L'avevi la tenuta notizia, nascosta. Vabbè, l'avevi tenuta nascosta. Ma perché me ne frega a me di questa tenere l'apertura nascosta di Repubblica? Vediamo libero come ama. Si vede che c'è una bella figura che non è Borgonovo. No, non è Borgonovo. Una bella signora che io potrei ribattezzare. La voglio presentare perché è una. Ecco, l'apertura di Libero qual è? Abbiamo detto Repubblica parla dei sassi contro i cinesi. L'apertura di Libero, foto di Salvini e Meloni. Sì, trionfo sovranista. Il titolo, giuro. Metà dei seggi a Salvini e Meloni. Metà dei seggi. Simulazione, perché non è una buona notizia per loro. Vabbè, ragazzi, ma chi se ne frega? Questo è Libero. Allora, posso dirti una cosa, caro David? Io potrei ribattezzare questa signora che ci è venuta a trovare oggi qui in studio. Questa ragazza, no? Questa signora, naturalmente. E con un soprannome potremmo dire che è la Vanna Marchi dei gioielli. E ovviamente speriamo che non finisca come la signora Vanna Marchi. È una televenditrice soprattutto di gioielli. La signora Botto, che presento in questo modo con alcune sue performance televisive. Ma, avete avuto una storia voi due? Ma anche no, ma perché dovrebbe avere una storia? È sposata, sempre fidanzata. È sposata, è una signora prosperosa con delle tette paurose che qui si possono vedere in tutto il loro splendore. Beh, naturalmente mi sembra elegante nei confronti della signora. Ma no, ma lo sa benissimo, è una persona molto schietta, vero? Buonasera signora Botto, innanzitutto. Ciao a tutti, ciao Parenzo, come stai? Ciao cara, è vero buonasera, che ti piace molto buonasera. Parenzo, a te come tanto, uomo, tantissimo, sì. È vero che ci scopresti immediatamente. Immediatamente, subito. Ma scusa, ma non ti affascina una signora che ha queste tette? Guarda che ha delle tette incredibili. Non ho detto nulla, però nulla mi pare che fate bene. Non che ho detto nulla, non mi permetterei mai. La quinta sarà una quinta. Ma è vero che ce l'aveva più grosse prima? Più grosse, sì. Ce le ha ridotte, leggermente meno, diciamo, riempite. Ma famose riempite diversamente. Quanti interventi ha fatto alle sue tette, signora? Ha un solo intervento. Comunque, uno unico. La presentiamo in questo modo qua. Vende gioielli a grande successo, fa un sacco di soldi vendendo gioielli in televisione, una specie di Vanna Marchi dei gioielli. E fai un favore presentandola così, però. Vanna Marchi aveva anche la sua creatività, sì, una effetti. Volta, no? Però speriamo che non finisca in galera, naturalmente, per carità, assolutamente. No. Non si può pensare, bisogna solamente confermare. Me lo infilo così per col polsino piccolo. Guardate che amore! Guardate che meraviglia! Non perdete assolutamente questa opportunità. Guardate che meraviglia. Però la signora Marchi aveva più carica, amico mio, più carica. Aspetta, a quella vendeva il sale, scusa. Che cos'è? Vi voglio attente, vi voglio veloci. Sono promozioni per voi. Sono promozioni che la Gioielli d'Anna regala al pubblico, nice. Perché siete amiche sempre le numero uno. Poi si entra nella parte interessante, cioè. Ci sono una massa di segaioli proprio impazziti, di idioti. Lasciami stare i miei segaioli, lasciami stare. Allora, una delle caratteristiche principali della signora Botto, che è un po' un idolo delle folle, insomma, delle folle sull'internet, soprattutto appunto di persone innamorate delle sue forme, perché lei non le nasconde, anzi, è una delle sue caratteristiche per vendere questa roba qui come televenditrice, sono le sue tette, diciamo la verità. Insomma, ma tu. Certo, ma bisogna mostrarle le forme, non nasconderle. Ma bisogna soprattutto. Cioè, lei lo considera un asset strategico, beh, direi, assolutamente. Economici. Sì. Ma sì, ma un è asset. Normale che sia così. Che cosa vuoi sì, che pensi? Sì, che no, l'asset strategico, carità. Che cosa deve essere? Un libro di Kant? Un libro di Kant? La Divina Commedia? Il progetto per una pace del perpetuo di Immanuel Kant non mi sembra c'entri con la vendita di gioielli. Quanti euro fa a settimana di vendita, dico, di gioielli? Adesso, più o meno, diciamo, sì, di gioielli, quanto fa? Una cinquantina mila euro a settimana, sì, le fate? Sì, più o meno, 20, 25, 35, però, dipende da settimana. Però la cosa interessante è un'altra, sì. È il numero di persone che chiamano lasciando messaggi incredibili. Incredibili. Cioè, tipo, fammi un esempio, prendi un attimo il telefono. Allora, qualcuno chiede ad esempio, un esempio l'ultimo saggio di Massini. No. Allora? Quanto ti piace farci fare le seghe su di te? Ma chi è questa? Che gente è? Poi? Oppure, aspetta, dammi il tempo, ma sei no, padrona, il mio sogno sarebbe solo di subire sessioni di sputi in viso da te. Potrebbe divertirti provare questa esperienza. Sono giovane, basso e magro, che pensi della cosa? Pago bene, per chi ovvio. Vota. Gli chieda per chi vota questo. Perché scusa, non ho che si vuole far sputare in faccia. Sei circondata di gente che ti manda continuamente questi messaggi. Sì. ma anche gente che poi passa, no, all'azione, vabbè, ci sono anche quelli, no vabbè certo, vabbè. Però nei messaggi c'è gente anche che poi veramente si fa delle seghe al telefono proprio, questo io non ho una webcam per vedere se in quel momento, no, però ti posso dire che mi mandano anche video, mamma mia, abbastanza espliciti. espliciti diciamo. Ma secondo me questo qua però è un motivo, cioè le stesse persone che fanno così sono le stesse persone che poi comprano i gioielli, c'è poco da fare, cioè... Ma può anche darsi magari per regalare alla fidanzata, gli uomini di solito fanno così, ma sicuro al 100% si fanno le seghe con le altre e poi ti regalano l'anello. Senti, è una cosa abbastanza normale. Tu sei sposata, no? Sì. Che rapporto hai con tuo marito? Avete un rapporto aperto? Sì, diciamo. Cioè, il tradimento secondo te deve essere un po' smitizzato? No, allora secondo me cioè tuo marito va con altre donne? Il mio marito è andato con altre donne, c'ho le corna che non passo dalle porte, se mi ci incastro in mezzo. Ma come sarebbe, scusi? Beh, c'ha le corna, dice di avere le corna. Ma se ce l'ho non posso mica dire che non ce l'ho, quando una cosa è accertata bisogna... Però non te ne frega un cazzo che tu hai... Non è che non me ne frega un cazzo, diciamo che ci ho fatto l'abitudine, nel senso che ho capito, bisogna essere, cioè non si può pensare che un uomo possa stare tutta la vita solo con ma te. Anche tu, anche lei ha ripagato con la stessa moneta. Tante volte l'ho anche fatta. Lei ha anche fatte. Avete un rapporto aperto, insomma, vi dite i vostri tradimenti, vi raccontate tranquillamente. Ora, non è che tutte le sere ci sediamo a casa e ci diciamo oggi hai scopato con qualcuno. No, però può succedere. Però diciamo avete allargato ogni tanto la vostra collaborazione erotica ad altre persone, cioè avete fatto delle cose in moltitudine. Non le abbiamo fatte, ma non ci sarebbe niente di male nel fare. Siete aperti alla prospettiva, diciamo. Non vedo niente, assolutamente. Se ci venisse l'idea, magari lo faremmo. Sì. No, mi sembra che siano d'accordo entrambi i coniugi. E quindi. No, volevo sapere Parenzo cosa ne pensa. No, Parenzo è molto attaccato attaccato alla tradizione. Diciamo. No, sì, sono abbastanza per un rapporto di esclusiva. Lo sono nelle trasmissioni televisive e radiofoniche, lo sono anche, diciamo, nelle questioni. Cioè, non so, ad esempio, Cruciani non sarebbe contento se io facessi la stessa trasmissione, che so, su un'altra rete alla stessa ora, no? Quindi io sono per l'esclusiva in quello. Cioè tu sei per l'esclusiva. Cioè praticamente il paragone sarebbe il sesso con la trasmissione radiofonica. Non no, sì, no, lui dice molto fedele. Ma la fedeltà ha un senso oggi, Emanuele, diciamo la verità. Ma la fedeltà non la vedo nel tradimento sessuale, la fedeltà verso una persona la vedo in altre cose. Essere fedeli a una persona la vedo nella vita quotidiana, nei problemi. Non... Ma quando uno si rifà le tette, i capezzoli, che fine fanno? Ma questo cosa c'entra? Rimangono esattamente uguali. Sì, cioè non è che si schiaccia. È un argomento uno li può anche rifare. Uno li può rifare più piccoli, più grandi. Tu io ce li ho molto grandi, non li ho mai toccati. Grandi sono. Sì. Grandi. Ma tu, per esempio, in onda non li hai mai tirati fuori i capezzoli? Ma qualche volta sono usciti, ma non perché li ho tirati fuori, magari perché avevo qualche ma magliettina. Grandi che significa grandi? Cioè, grandi significa. Diciamo con l'aureola molto grande. Con l'aureola grande, ma anche il capezzolo lungo. Sì, abbastanza. Abbastanza lungo. No, ma è tanto per capire, no? Siccome ci sono già dei maniaci all'ascolto, non vorrei che tu stimolassi pieno di maiali che ascoltano questa trasmissione, che chiamano, quindi. È per dare un quadro chiaro della situazione per chi guarda. Ma a me, vista da qui, mi sembra chiarissimo il quadro. Cioè tu prenderesti dei soldi per andare a letto con qualcuno, cioè se qualcuno ti offrisse dei soldi, una cifra anche esorbitante, no? Esorbitante. E magari qualcuno l'ha fatto, cioè tu sei una classica MILF, perché comunque sei madre, mamma e anche nonna addirittura. Sì, nonna, cioè sei cioè tu a 41 anni, quanti anni hai? 43. A 43 è nonna. Cioè sei oltre la MILF, com'è che si dice? Cioè l'età mia ed è nonna. Sì. Anch'io ho 43 anni. GILF mi dice cosa GILF, cioè tu cioè sei il sogno di un sacco di italiani, cioè sei nonna a 43 anni, cioè no, un quindi sacco di gente vorrebbe fare con la nonna praticamente, cioè, insomma, no, adesso faccio per dire, ma sarà nonno pure il marito, penso, no? Sì, però no, perché no, l'hai no. Avuti da un altro, no, non è nonno ancora. Allora, però, quindi dire... lui va a letto tecnicamente con la nonna, con la nonna. Cioè, questo mi sembra avrai uno stuolo di ragazzini che vorrebbero trombare con te. Tanti, sì, sono tanti ragazzi giovani, sì, anche tanti miei follower sono tanti ragazzi giovani, capito? Cioè, sì. No. Sì, ma per carità, io non ma il problema è quello, in dubbio questo. Il problema è è sempre il solito, cioè la smitizzazione della questione del tradimento. Cioè, tu, se ti offrissero un po' di soldi, diciamo la verità, saresti disposto ad andare a letto con qualcuno? Ma dovrebbero offrirmi una cifra esorbitante, tipo soprattutto... 10.000, 20.000 euro? No, 20.000 euro no, perché li guadagno. Ma li guadagni in una settimana, che gliene frega. Scusami, 20.000 euro li guadagni. Ma che ne so, un arbo che ti offre 100.000 euro? 5 milioni di euro, sì, 2 milioni di euro. 5 milioni di euro, non è che ce l'hai solo te, 5 milioni di euro non è che ce l'hai. Vabbè, cioè, per esempio, le mutande te le chiedono ogni tanto? Le calze, aspetta. Le calze, che ti chiedono? Le mutande pure te le chiederanno? Sì, le mutande. cioè, se qualcuno ti offre adesso 500 euro per le tue mutande, le dai via le tue mutande a 500 euro? 500 euro, sì, adesso. Magari gliele do in beneficenza. Ma no, ma adesso, vabbè, qualcuno ti dice 500 euro per le mutande che hai addosso. 500 euro per le mutande che ho addosso, adesso, così. Adesso, se qualcuno, se qualcuno, 1000 euro per le mutande che in questo momento hai, se qualcuno chiama, 1000 euro, poi li diamo in beneficenza. 1000 euro per le mutande che in questo momento hai, sì, li diamo in beneficenza. D'accordo. Nel 2002 mi sono diplomato. Nel 2006 ho aperto un bar. Nel 2010 mi sono sposato. Nel 2011 è nata mia figlia. Nel 2015 sono stato arrestato per omicidio. Nel 2016 sono stato condannato a 30 anni. Nel 2018 sono stato assolto con formula piena. Troppo spesso consideriamo mostro un innocente. Il Riformista è l'unico giornale che combatte ogni giorno contro manette facili e giustizialismo. Il Riformista, il quotidiano uguale a nessuno. Colesterolo? Prova Colesterolact. Colesterolact contribuisce a mantenere livelli normali di colesterolo nel sangue. Colesterolact, 2 mesi di integrazione a soli €19,90. Acquistalo in farmacia e parafarmacia. Una pecorella, 2 pecorelle, 3 pecorelle. Difficoltà 21. Nel prendere sonno? Stress? Smetti di contare le pecore. Conta su melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli €9,90. In farmacia e parafarmacia. Io guardo avanti, per questo ho scelto Unipolsai, i numeri uno nell'assicurazione danni e nell'innovazione. Come la polizza auto con Unibox, che ti fa pagare per quanto guidi. Unipolsai, sempre un passo avanti. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo. Fai subito un preventivo su unipolsai.it. La Zanzara. I mariti devono capire che un cazzo di gomma può assolutamente salvare il matrimonio. Fatti paladino di questa crociata, Parenzo! Vibratore, vibratore, vibra, non ti fermare. Parenzo! Vibratore, vibratore, vibra, non ti fermare. Vi piace un mondo così? Vivere nel cassetto, troppi sogni da realizzare. A me fa cagare! Noia galoppa, ti viene incontro la tecnologia. Parenzo! Se la carne scarsa e già c'è la salsiccia di cortesia. E che cos'è? No, tengo un bel cazzo, non ti preoccupare. È una cubana rifatta, un chiavatone esagerato. Lo sai una cosa, una novità qua a Verona? Le mife li chiami, sì, ti chiedono da che paese sei. Se non sei italiano, non puoi scoparli, anche pagando. Giusto, ma c'è un razzismo anche nella prostituzione. Come, no, siamo, come siamo messi qua? Nella prostituzione c'è il razzismo. Questo? Mi li chiamo. Sì. Di dove sei? Oh, sono del Togo, sono della Gambia. No, le scopano solo gli italiani. E come le affitti? No, hai sentito l'accento? Mi li chiamo, l'accento quasi veronese, sì, sì, di questo, sì, qua, sì, molto integrato. Molto integrato. Ce l'abbiamo, cioè, in collegamento, il signor Amadi da Verona. Qui. Amadi. Amadi, ma non manca Amadi nulla da Verona, qua, non manca nulla. Che denuncia, una discriminazione razziale. Diciamo subito una cosa, caro Amadi, tu sei un immigrato. Ma abbiamo abbandonato la nostra gentile ospite. No, è qui che ci assiste, non ti preoccupare. Evviva. Non ti preoccupare, evviva. Ha messo all'asta le sue mutandine. Se c'è qualcuno, sì, che davvero, non per finta, offre 1000 euro, lei se le sfila e le offre al gentile offerente per dare poi in beneficenza. Ovviamente esattamente queste qui che sta indossando non penso che sia un problema, no, cara Emanuela? Comunque, sembra un'attività. Amadi, voglio capire dov'è questa discriminazione. Strano, questa, però, discriminazione, come si manifesta questa discriminazione? Ma, beh, poi te le dico già che si manifesta comunque, che sia vero, no? Che sia a Varese, perché ogni tanto ho i miei giri, vado a Varese per trovare amici. E vai regolarmente a puttane, mi sembra di capire, no? No, regolarmente. Ogni tanto. Ma tu non sei musulmano, Amadi? Certo che sono musulmano. Musulmano, capito? Un musulmano che va a puttane. Ma va bene, tutto, moderno. Per carità, un uomo di mondo. Sei un musulmano all'acqua di rose, diciamo la verità. Cioè, musulmano moderno, sì. Musulmano moderno che beve alcol, va a puttane, eccetera. Sì, finché mi fa male, bevo gli alcolici comunque. Li bevo e poi vado a Troia ogni tanto. Sì, vabbè, ma cosa vuol dire? Ma è integratissimo questo Amadi. Da dove viene? Dal Togo? Da dove viene questo Amadi? Dal Senegal. Tra l'altro mi è venuto a trovare qui uno chef stellato dei dintorni di Verona. Dei dintorni di Verona. E dunque questo Amadi potrebbe, come dire, Ivan. Ivan Bombieri, benissimo. Ivan Bombieri, chef stellato alla provincia di Verona, che mi ha tenuto a trovare, grande ascoltatore. Grande ascoltatore, via pranzo gratis, hai guadagnato anche stasera. C'è nessun pranzo una gratis. Marchetta dietro l'altra. Una marchetta dietro l'altra. Questo qua dobbiamo parlarne forte, non è giusto che sia questa discriminazione. Ecco, spiegami meglio questa cosa, che è più interessante delle cose che dice Parenzo. Parlarne forte, nel senso che poi quelli che fanno la discriminazione sono soprattutto vivendo dall'estero. È quello il discorso. Cioè, mi stai dicendo tu adesso, perché da dove vieni tu? Dal Togo? Da dove vieni? Dal Camerun? No, dal Senegal. Sì, scusami, sì, per te è tutto uguale, Togo, Camerun, tutto uguale. Richiamate, che è Amadi che è crollato? È crollato Amadi, cioè mi è morto Amadi così. Cioè, è amico di sicuramente di Spada di Fuoco, quello che ha incontrato oggi, Paco. Quasi oggi, grande Paco Spada di Fuoco ho incontrato, sì. Un ragazzo straordinario, molto simpatico. La cosa incredibile. Donatella da Pisa. Ma abbracciato, ci siamo abbracciati. Richiamatemi a Amadi. Un bel cosa momento è stato. In una delle tante marchette che hai fatto in giro per l'Italia. No, Donatella da Pisa, un vai. Convegno, una conversazione. Dimmi, Donatella, dimmi. Questa allora è l'unica trasmissione in cui i conduttori si insultano, sì, a vicenda. Sì, ma una cosa incredibile. Ho fatto un convegno sui fondi sul fondo di solidarietà del Messico. Penso che capito. Ho fatto un convegno sui fondi pensione col governo, c'era il sottosegretario all'economia. C'è l'unica trasmissione in cui a vicenda i conduttori si infamano. Uno gli dice: sei un pezzo di merda. Sì, arriveremo a questo. Arriveremo, sì, no, sei un infame, siamo razzista, già, no, è già, pezzo già, di merda, è già, rotto è già in questo, culo. È già questo. Donatella, dimmi, no, devo dire per una volta che sono d'accordo con Parenzo, che è il festival del politicamente corretto, però oggi. Mi è piaciuto molto, perché mi ha fatto veramente incazzare quello che ho sentito dire da Feltri. Beh, dai, aberrante, su. Sì, ma non aberrante. Il politicamente corretto non c'entra nulla. Facciamo c'entra risentire il un attimo questo audio, innanzitutto. No, è facciamo agghiacciante. Allora, bisogna adesso, dai, qualcuno si incaricherà, non so se facciamo in tempo oggi, di mandare a fare in culo, no, Feltri. Ma no, questa di è l'unica cosa la domanda fare che gli hanno fatto, perché messa così sembra veramente che ha detto: vabbè, ma insomma, dai, bisogna avere una forza pazzesca per stuperare una persona. Ma risentiamo un attimo, perché magari c'è una premessa, cioè. Di solito tagliamo, magari può succedere che non mettiamo una premessa e uno interpreta male. È normale, dai, vai. Non credo che sia facile violentare una donna. Io faccio fatica con una che me la dà volentieri, si figuri con una che non vuole, perché poi lì bisogna esercitare anche tutti i muscoli per tenerla ferma, eccetera. Io non riesco a capire. E mi pare abbastanza, ma mi pare abbastanza. La cosa mi sembra chiarissima. Comunque mi fa veramente specie che Feltri, che è un giornalista, non sappia come funziona lo stupro, dove solitamente le donne vengono massacrate di botte. No, ma infatti secondo me non è difficile. Infatti secondo me non è troppo complicato. È una conversazione stupida proprio. No, una conversazione difficile. Infatti per quelli che hanno questa attitudine violenta. È un delirio, violenta, guarda. È un delirio. Ho capito, ma sarà adesso. Voglio sentire la domanda. Sarà niente. Ma non cambia nulla. Ma perché lo stupro è un atto di violenza. Non è questo, lo sappiamo tutti. Fra l'altro lui mette insieme le due cose, perché dice: quelli che me la danno volentieri io faccio fatica, configuriamoci se uno non me la volesse dare. Ragazzi, il direttore è il direttore, il direttorissimo, per cui Ale sue delira, il direttore delira, utilizza le sue iperboli. Questa cosa qui ha sparato una cosa assolutamente inaccettabile, molto grave, inaccettabile e gravissima, e offensiva nei confronti di tutte quelle donne che hanno ricevuto violenza, che è un dramma. La solita pippardella. No, devi dirgli: hai detto una stronzata, Feltri, hai detto una stronzata. Ho capito, ragazzi, su, dai, glielo devi dire, anche se è un tuo amico, gli devi dire: hai detto una, se lo chiami gli dico: hai detto una stronzata. Vabbè, Donatella, ciao. Gabriele Dorovanzi, no, Nicola da Bologna, vai. Mi dispiace, Nicola da Bologna, che abbiamo lasciato da sola in questa conversazione, no, la tua gentile ospite. Ma vedo che sei particolarmente interessato semplicemente perché ti ha detto che ti scoperebbe subito, perché sei uno dei suoi ideali di uomo. Cioè, che ha detto che sei. E tu, allora, la tua attenzione, quando lei ha detto che tu sei un suo ideale, è una questione di educazione. Che tranquillamente si farebbe una storia con te. Sei impazzito completamente. L'ormone è impazzito. E guardi solo in direzione di queste tette qua. Misura quinta. Sono a Roma, glielo faccio vedere bene. Ma chi guarda? Ecco, le guardi Roma, bene. Che sono a Roma. Cosa vuoi guardare? Nicola da Bologna. Sì, non funziona niente, va tutto rotto, purtroppo. Nicola, schermo piccolissimo. Nicola è caduto. Gabriele da Roma, dai, Gabriele da Roma. Dico che è una maleducazione. Ci abbiamo le pezze al culo. La verità è che ci abbiamo le pezze. Lasciare una gentile ospite così è una maleducazione. Gabriele da Roma, adesso torno dalla. Ma so che te ne occuperai tu in serata. Dimmi, questo dimmi, lo so. Dimmi. Lo so. Buonasera, Crux. Buonasera, David. Io ho un bed and breakfast e tra due giorni, esattamente due giorni, mi arrivano dei cinesi da Hong Kong. Allora? E vabbè, e hanno prenotato, avranno prenotato. Tra l'altro, la signora è anche una bellissima signora, se possiamo dirlo, anche una bella faccia da porca. Ma sì, però la signora chi? La cinese, no? La cinese che sì, ha prenotato. La cinese. Ma che te frega che c'ha la faccia da porca, signora? Cioè... Però, potrò essere anche razzista, però io non mi sento tutelato. Sì, e vabbè. Non posso neanche cancellare la prenotazione. Ma adesso non perché... esagerare, viene da Hong Kong, due cinesi, ma che cazzo c'entra con col coronavirus? Col dai, coronavirus, su. Sì. E io non posso neanche cancellare. A parte che non ci sono, da dove viene questa qua che hanno cancellato le cose? È un fake assoluto. Alessandro da Prato, dai, Alessandro da Prato, dimmi. Dimmi, Alessandro, dimmi. Fastidio quando si. Allora, torniamo alle mutandine. Allora, col maiale. Cosa facciamo con queste mutandine? Allora, qualcuno mi sa che. Facciamo? No, ma nel senso che. Se le messe se le tiene, la persona esce di casa se le tiene. No, però possiamo. Cioè, possiamo immaginare che. Cioè, tu. Per le. Ma sono un paio di mutande. Ho capito. Sì, dunque, se qualcuno offre dei denari. Dei denari, ora sfilarle. Ma sì, lo faremo anche, cioè, lo faremo, lo farai, le sfide. Le porteremo delle mutande per questo gentile ascoltatore che vuole dare in beneficenza ai suoi 1.000 euro. Altri messaggi che ti arrivano di gente che allora, ti vede? Allora, questo è molto bello. Signore, la Banna Marchi dei gioielli. Allora, mamma mia, calcola che io sono il figlio del signore che ha il profilo Instagram. Ieri mi sono fatto tre pippe guardando le tue foto. Hai capito? Mamma mia, come sei bella. Vabbè, ma quando questo... ti ho vista, indovina cosa mi è successo? Che cosa ti è successo? Non so, indovina. Niente, avrà cioè, praticamente tu hai una serie di fan che sono sostanzialmente dei segaioli. Questa è la realtà. Dei maiali. Hai un marito, hai un marito praticamente un puttaniere. Sì, facciamo un attimo il quadro. Effettivamente la situazione non è dei segaioli. C'è un marito cornuto. Dei segaioli che ti seguono. Allora, io voglio quinta di tette di segaioli. Allora, cazzo. Allora, io voglio sapere questo. Dimmi quale uomo non è un puttaniere e quale uomo non è un segaiolo. Sì, allora, io questo... ne voglio uno qui adesso che mi dice: non sono puttaniere, non sono segaiolo. Tecnicamente questo... alzerei la mano con grande silenzio, modestamente, però capisco di essere minoranza assoluta. Dopodiché, ma tu sei quadro... l'eccezione che confermi la regola. Il quadro che lei ha dipinto, il quadro che ha dipinto lei della famiglia mi sembra un quadro alquanto interessante, per carità. Marito cornuto e felice di essere cornuto, e mezzo puttaniere. Lei, signora, che pure mi pare non si risparmi nelle sue molteplici attività, vuole pure mettere all'asta le sue mutande alla radio della Confindustria. Un gruppo di segaioli che la seguono. Mi pare che il quadro sia alquanto complesso. Bella, signora, perché... e tette all'aperto continuamente. Ma Silvia, guarda, da Vicenza, è quello che succede tutti i giorni in tutte le famiglie, solo che non lo fanno vedere. Si coprono fino qua, poi vanno a scopare sotto casa. Beh sì, è vero, ha ragione, su questa ragione. Però anche qui allora, Palazzo, un importante manager alza il dito e dice: mi permetto di dire che qui c'ho non mi risulta, poi magari mi... allora? Un importante manager di un settore piuttosto strategico che cosa mi scrive se non fossi con cosa mi fa... Ti farei? No, lasciamo stare perché non voglio metterlo in difficoltà con la fidanzata con quei macchine. No, comunque allora, è interessato alla signora che sta. È interessato alla signora. Grande manager di un'importante azienda. Abbiamo l'integrale di Feltri. Vai, l'integrale di Feltri. Vai. Vai con l'integrale di Feltri. No, non parte Silvio da Vicenza. Ragazzi, mi dite che c'è Silvio. Ma, notizia proprio recentissima, quella sul MeToo, perché poi anche qui avevamo lasciato in sospeso un po' di riflessioni, no? È una notizia un po' particolare su Asia Argento, che ha detto che il MeToo è tutta una montatura. Allora, però anch'io da donna lo dico, vorrei capire un attimino se è tutto vero, se è una montatura, perché poi anche lì, visto che lei è un direttore, un giornalista, spesso purtroppo le notizie sono relative, invece dovrebbero essere cosa certa. Sì, verissimo, però capita di prendere un abbaglio. Io credo che Asia Argento sia sempre stata tutt'altro che stupida. Però sull'onda delle polemiche per la sua denuncia tardiva eccetera, è chiaro che aveva perso un po', diciamo, la misura. Ma siccome non è stupida, è una donna intelligente, ha riflettuto e ha capito che è diventata una cosa hollywoodiana. Ed è vero, perché credo che sia facile violentare una stronzata. Faccio fatica con una che me la dà volentieri, si figuri con una che non vuole. Ha detto la stronzata. Perché poi lì bisogna esercitare anche tutti i muscoli per tenerla ferma. Io non riesco a capire, però ci sono i violenti e quella è una cosa che va combattuta. Però se ci ha proprio pensato e l'ha detto di fronte a una giornalista donna, peraltro. A volte lo fa, dicono, io non lo so, ma per ottenere un favore saranno affari suoi, no? È un patto, uno scambio. Mettiamolo così, perché ovviamente questo. Però si è capito il senso qual è, dai. Ci sono poi anche quelli violenti. Ci sono quelli violenti, però se poi i due sono consenzienti, cioè non è che, dai, alla fine si capisce, dai. Dai. Ma che roba è? Silvio da Vicenza. A me vai, sembra Silvio. Una porcheria. Silvio, dovrebbe dimmi. Chiedere scusa. Dimmi, Silvio, dimmi. Sì. Allora? Allora, io volevo dire che l'intervento del signor Toscani è l'esatta espressione di che cosa sia un certo tipo di sinistra, ovvero un coagulo di odio verso chi comunque moderatamente cerca di esprimere dei pensieri di destra. Io non offenderò mai il signor Toscani. Ma si dice che sono tutti ignoranti, a destra sono tutti ignoranti, e sono buzzurri, delle bestie, buzzurri, fascisti. Soggetti, Toscani è così, dai, pensa che la verità ce l'ha solo lui. Cioè, ma purtroppo è anche lui, ripeto, l'espressione di un certo tipo di essere sardine, non di tutti, perché io non sono generalista. Ragazzi, ma le sardine non c'è nessun tipo, essendo il nulla non ci può essere qualcosa, essendo il nulla non c'è nulla, non si può esprimere nulla, dal nulla non ci può. Ma qual è l'idea? Quale? Ditemene una, cazzo, ditemene una. Allora italiani, dai, fermi tutti. Da Veneto, allora sono di destra. Riassumiamo la situazione di Emanuela Botto. Sì. Allora, segaioli che la seguono, un marito puttaniere, anche lei, anche cornuto, lei, anche cornuto. È cornuta pure lei e vende gioielli grazie alle tette. Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Gaucci, noi siamo di Sanea, Gaucci! Vai a fare il culo, è tuo fratello!